Yeah, yeah. A drop training cook. Oh, Issa. Oh, Issa. Mushi, mushi, mushi, mushi. Chuka, chuka, chuka, cha. Hey. Sei nessuno? Hola. Che? Permettersi. No, coricato sono. Andando, sì. Una fetta del pandoro che sto mangiando. A lei voi. Oh, ve l'ho già mangiato. Oh, allora sei il coppione. Eia, eia. Non fa nessuno che ha acceso adesso. E io pure ho acceso adesso, proprio in questo momento. Boh, non credo, sennò sarebbero... Lascia un po' di bianco se volete fare qualcuno. Eia, aspetta due minuti che devo fare una cosa. Beh, bello bene, cucciù, e me mangiando pandoro, sì? Amari, caldo sì. Ma cosa c'hai? Stai sempre brontolando, cosa da brontoli adesso? Sempre mangiando, sai, bella bene, tutti morti sono, non è entrato nessuno. Boh, me l'ho sentato. Porti solo. No, bisogna scendere a via di San Paolo a vedere se c'è qualcuno vivo. Antonella Critti che sta nevicando, buon pugno. Messa neve. Magari è a Osilo, quella zona lì, se scatto c'è la neve. Anche dove Antonello, nel telefonino. Antonello Bittau, qua sta nevicando, è morendo di freddo. Oh, ma ci ha passato il fuoco, è caldissimo, è basta il freddo. Telefono a sé. Beh, è partito il treno, bello bene. Aspetta. Sì, che hai bucato la ruota, bella bene. Aggiungi il carbone. Che sei a metà. Ma con chi ce l'hai? Da solo stai parlando. Ciucu ciucu si sente. Quello della neve. Boh, io non lo sento. Sarà col gommino, io già lo sento. Se fallo cantare. Canta ciucu ciucu. Non parla. E deve essere va paura, il bambino. Cosa c'è? Gente che ha paura? Eia, non ci vuole entrare. E sta chi ha paura? E deve essere... Vabbè, non entri. Ciucu ciucu. Ciucu ciu. Avanti, ciu ciu ciu. Vabbè, perso, ha bucato il treno. Non ha gana. Beh, bella beh, mangi una cura del barettone, sai. Fattorello, nevicando sarà a te. Ciucu ciu. Cosa c'hai? Sono tutto gonfio. Ma sta nevicando da te. Adesso no, alle 2:30 ha fatto una bella mezz'oretta. Già si sente dall'aria. Io sono la fatta notte, mi. Perché stanotte vedrai che scende la temperatura, adesso siamo ancora di giorno. Avevo sino 4-5 gradi io penso. Se scende allo zero termico, a provincia che sta nevicando, quindi se scende al stanotte allo zero termico vedrai che fa cassarsi qualcosa. Freddo c'è. E purtroppo è così. Ci dobbiamo tenere. Il tempo suo. E allora, c'era Gian Maria che sta mangiando il panettone, il bambino. E se il panettone? L'ho mangiato a pranzo il panettone io. Figurati, un pezzettino mi. Mi sono bevuto un bicchiere di vino a scaldarmi, non mi ha fatto tutta. E se più freddo il vino, che cosa, che mettono in frigo? Anche ti devi dare un frigorifero, non ne mettevi in frigo? No, l'ho messo in frigo, sopra il tavolo, ma siccome c'è freddo la notte, capito? c'è della temperatura, anche l'acqua è fredda, mi metti qui dentro a casa, quindi c'è freddo, c'è, ma ci vuoi solo una felpa, c'è la stufa accesa, vabbè, sono in cucina io. No, io sono in cameretta, l'ho attaccato stasera il cavo perché ho visto l'altro giorno, ma gli ho detto non mi sono fidato, ma per il temporale, gli ho detto sempre poco poco, detto, mi fai alzare alle 3-4 del mattino, anche una gara. No, non fa salire sul tetto, è freddo, è buffonelli, non saranno. Ho staccato i cavi dalle antenne per la questione del temporale, capito? L'ho agganciati poco fa. Li ho staccati dall'antenna direttamente. No, da dentro a casa, cosa dall'antenna? Ce la faccio salire sopra il tetto. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Adesso quando farò i fuori nuovi, mi piazzo il palo proprio frontale nel muro e lo sollevo a mano, telescopico. Così quando voglio lo piglio e prendo e lo abbasso. Capito? Nel caso ci sia vento forte per sicurezza. Ah, ti metti il tubo a cannocchiale. No, io non ne lascio mai attaccata alla radio. Se siamo in estate sì, ma in inverno non ne dago mai attaccata alle radio di capo di antenna. E io lo stesso. Lo stacco, lo metto sempre in terra, nel pavimento. Non voglio fare la fine di quello che c'era lì vicino a casa tua, nell'incrocio di quattro semafori. Appiando in pieno la parabola e l'antenna. A me mi pare che ci vogliamo arrivare a Pulsa, che noi era un fulmine. Vabbè, già c'era problemi nella palazzina, già me lo ricordo anch'io. Poi vabbè, lì già lo sei tu, anche tu in quella zona, a Mario gli hanno spaccato in due l'antenna, quindi. E adattando gliel'avano fatto a lui. Però l'apparecchio, quello 200 canali, c'aveva l'ingresso di alimentazione 220 bruciato, capito? Quello che avevo cambiato. Quindi probabile magari c'è stato qualche spazio di tensione che era sua, Lazio, se non gli hanno fatto il dispetto, a chi vera uno ti cambia sempre rompendoli le scatole, uno che conosco io. Anche nella parte di Mario Manzo è la stessa cosa, capito? Già due volte che gli era successo, gli avevo fatto fuori l'antenna. La Mantova, e tu se c'era neanche due mesi, dice no, l'ho data giù il vento, invece era truncata azoto, capito? E hanno staccato il palo, appoggiato in terra, compresi i radiali, hanno spaccato tutti quanti i radiali. Poi da lì non l'aveva piazzato, poi gli ho detto un giorno, direi la ripeto sopra, ma tu fa quello che vuoi, mi ha risposto. Però poi non ci sono più salito, ho detto guarda ci vado da solo e a fare quel lavoro non fa. Hai capito? Se vuole piazzare, si sale e si piazza tutti e tre, non è che salgo sopra e poi dopo due mesi l'hai trovato peggio di prima, sparata. Ma io l'ho incontrato dal medico un giorno, perché c'è il medico che c'ho io, ma ha detto che non piazza più nulla, si è lampato tutto dentro l'armadio, tutto sarrato e non mi interessa più nulla, non ne usa più. E la gente, perché non ti rivendi allora se non luci? No, io cosa rivendo? Ma dammi gli uccidi, ti ritengo arrivati. E a conso sì, te ne dici. Già li piacerà, se li viene in mente. Capito? Magari lo piacerà il figlio, niente di strano, Davide, che gli venga a mettere di piacere tutto. Se parla non ne vuoi sapere, piacerà il nuovo Davide. È tutto da vedere, solo che lì una moto ma non conviene, capito? È troppo grande. Una di quelle cose di canne, una di quelle canne da pesca, lo dico va bene, a lui. E l'antenna per la V e la U, basta, no? Non c'è bisogno di mettergli altro. Aspetta un attimo, Antonio. E io va bene. Beh, Antonio. Dimmi tutto. Ah, ci sei. Sì, che ci sogno. Sì, Gian Maria è entrato. No, non l'ho già inteso ancora. Gian Maria, ma tutto il bandolo dice ma niente. Ma quando rispondi non respira, quando vado balettoni. già respira, non ti preoccupare, adesso lo mangiare. Evidentemente c'è la gente, se no non avrei mangiato il palettone. La cosa che tu dici, c'è gente che mangia, tutto mangia. Pasticcini, pandoro, panettone, frizzantello. Di tutto, di più. Tu quando devi mangiare dici c'è gente. E si mette a mangiare. Palettone, pandoro. Si beve un bel bicchiere di sfumante. Sì, si beve un vero burro, un adanto, un cicchetto, fare al magazzino e sa fare un cicchetto. E non fa bene, l'acqua vita fa bene ai miei anziani, li fa addensare il peluche. Allora, ma gli si pare un grillo. Perché sa già l'acqua vita. Allora, a me diventa unico, nastro belle da 3-4 sacchi. Beato lui. Diventa l'uomo verde, Antonio. Sì, l'uomo verde diventa addirittura. Allora, tutti i muscoli scoppia la roba, devi vedere. Cro, figurati. Capita, ma te lo disegni che vi ancora non ha attaccato però no. No, non ha attaccato niente, ha fatto solo nel vischio. Ha paura che dice che sta levicando invece. È la punta più alta di Pluale. E ma si vede che aria di neve, fa un freddo, ma razzurchi, proprio frigido. No, a me figlio l'ha detto, quando sta rientrando, prendi altre due o tre sacche di pelle e in più, meglio che vieni già in più che ti manco. Quindi, sta girando un sacco di rughi, che hanno una via, che va via che su sgarcino, è pure aumentato, a 5,50 al sacco. E io di solito il pellette è segatura, me. Non è che sia roba scatto più che altro. 5,50 euro. Costava di meno la legna a girare, lo spi. 5,50 euro, anche alla bricco me. Quello che ha preso stamattina mi sembra, 4 giacchi. A 5,50 euro, adesso stasera ne ha preso. No, stamattina poi ne ha preso 3 sacchi, poi stasera 2 sacchi, e tutta 5,50 euro. E a chi malazzurchi, sono gli ultimi 3 mesi che fa freddo e a Sanassato Rubrici, non è un briso. Prima era 4,20 euro, beh. L'ufficio se lo fanno pagare, poi sono i giorni della merda, fa poco, quindi... Quando fine l'inverno delle cose in a barra, burro 4,10 euro, 4,20 euro, proprio a reti so, per svenderlo no? E per farli fuori prima, quando c'è freddo lo sai che la roba aumenta, come la questione delle verdure e della frutta, quando c'è neve, un sacco di neve, allora aumenta la roba. Ma... vabbè, pazienza. Ehi, Antonè, però la legna, non ti credimi, ti arriga da un sacco di animali, poi devi accendere un fuoco, sporca un bel sporca, da bella del buringalaggi, che avevo provato una volta, tanti anni fa, ti arriga un bel di babbauzzi, no. Poi la devi alzare, non fa. In campagna già va bene, ma in città in appartamento non andava bene. A meno che non sia pian terreno e va un cortile, allora muore pure, andava bene. Quello già è vero. Mi pellette la stessa cosa, però 25 kg a sacchetto mi pare che sono. Come fai tu a salirci sopra, piano piano? 15 kg del sacchetto, in ascensore, ma se no c'è anche il carrozzo qua, L'altro giorno mia figlia ne ha salito due sacchi, se li ha messi nel carrello e li ha portati su, sino all'ascensore e poi con l'ascensore. E l'altra volta me ne ho salito 10 sacchi. La macchina l'ho messa davanti al portone, cosa hai fatto? Sicumetra arrivi all'ascensore, ma... Allora già va bene, non pensavo che non stava funzionando l'ascensore dove abiti tu. Da quando ero entrato io capo condominio l'avevo sistemato, anche la luce delle scale, prima non veniva, tutti i randaggi. Ehi, ma vedi, adesso che tratti a fare un condominio veniva giù fatti cagare di no. Hai fatto bene, fatto, no, perché io mi ricordo sempre la grattacielo. Lì, cazzo, quando dovevi salire su 10-15 piani, non c'era mai l'ascensore, manco uno li funzionava. Anche lì bisogna, hanno i buoni, di nati condomini hanno i buoni. Come qua, per dire, da noi c'è una famiglia che sono proprio randaggi, che non ne ha puttuta, pur se si buoni in carina, però non te li date né di là, per se io cagate. Infatti ne rimettiamo noi la parte sua. Ogni tanto gli do 10, 20 euro in più, te aggiungili a pagare i soldi che non mette quella stronza. E cosa aveva a Bria? Si prende, va a venire i ripeti, allora si la biglia a luce. Ah beh, per uno. Per uno già va bene, se fossero stati più di uno... è stato un casino davvero. Prima già erami in due, da poi oggi con 24 ed erami in 3, da poi erami in 4, poi in 5, poi in 6, in 7 e l'ultima non l'ha voluto pulire, la busta di fame, perché vabbè già sta al primo piano ma con i bilanci e solo, ma per dire li deve mettere anche lì, però avremmo appigli tanto, no, da poi come si è fatti i ripeti, a puniti chiave, troncati i lucchetti di garage, a fare dispetti, a bruciare i gittofoli, ma... quelli bisognerebbe fargli la segnalazione, farci buttare le cerofe in qualche tanca, a vivere come i pastori, guarda che ne è passata voglia. Ah, bisogna l'ente popolare, dimmi. Chissà se ne bagano i burri d'affitto, cosa avresti di già? Secondo me non pagano i utenti, a chi erano ne bagano? E venivano i bucati di contatore e stanno i bucati non flessibili. Eppure se tre volte vengono a pigliare la misurazione del contatore, lo vedi ne manco ballante in camera. Fanno la segnalazione. Hai già passati 10 anni ed è sempre così. In una discarica vogliono buttare quella gente, non è... sono incivili. E cosa fai? Agli spari. Aspetta, non vorrei dirci... La debba parlare così, se li vuole essere così volato. Ma per me si vuole pure impiccare. Ma... certo non saranno le sere o cagate... sue che mi fate le muri di fame, ma per carità. Ma vogliono mandarti via, è l'ente che li deve buttare fuori se non pagano l'affitto, tutte queste cose. Ci rivivi, ni manda, e buh. Allora vedi che deve essere lì, dimmi lì. Ma, se no a quest'ora, da quando vi sono. Secondo me mi saluta, adesso ce l'aveva tutti pura, ce l'aveva buttata, una grutta ce l'aveva buttata. No, in una discarica vogliono messi, cosa in una grutta? In una grutta si può riparare, invece no, in una discarica ce l'aveva tutti, mi sarà Mondetta. A che Mondetta è saliente? Di quella gente che pretende tutto a gratis, in alcun prese. Tutta gratis, ma la bevo non senza niente, e voi vi occupate già che sono ignorante che la balla, cosa di buona favita, tutto il tempo beso, prefiro i bongoli di latte e vai ammazzati, vabbè già non le prende, però non è neanche giusto, perché anche loro abitano qua e sono forti qui, si cosa vuoi fare? Si ammazzano, la parola crebaga che di. Dai certo, siamo tutti di passaggio qua, purtroppo, perché loro gli devono fare lo sbratto esecutivo a questa gente e mandare i vigili urbani a buttarli fuori, senza stare lì a tirarla alla lunga, e la danno la casa a chi se la merita, no, a questa gente. Paga, paga, buco, no, no, come te no che... Quando si chiude in vola, cacca non mi lascerà la cultura, come ti sarà la cultura si danno subito occupate, non so vinto più nessuno, né popolare né nulla, e sono fatti padroni di ragazzi, per carità, non ne frega un cazzo all'ente popolare che può essere. Beh, ma forse li temono pure, invece non bisogna temerli, bisogna cazzo buttarli fuori. Dagli lo sfratto proprio a me, ma cosa non hanno pagato? E così ci rivolga con le forze dell'ordine, molto ci vuole. Chi si lente popolare non mandano i no, a cui si vorrà ieri, mandano un ufficiale giudiziario con i carabinieri o i vigili urbani e vedrai come li buttano fuori. E sarà tutto bene. Siamo a Rubriccio. Un numero di ufficio blindato in cui si casi, era più dati, esclusivamente la gente che paga che ci rumilisce, che non porta danni. Sì, ma non è capito, chi sa gente, brusicini così di uno o due in garilla, chi non li ha tutti in usa, anzi, tutti i mesi, chi ha di visto l'ha arrestato, rubato, i migliori, se tra di l'anno ne sono usciti che andranno in contatto, vedi che grassi! Ma cosa è? Ma cosa mancare i sardiani beh, compreso Rai, o Santo Bastiano? Vuol dire che mangiavano i beh? Siamo che sardiani brutti, ragazzi, era pure in piedi, era grogo, giallo, verde, trucca e zindui. Si aveva questi chi vi dretto, quando ne esci un poco di grasso, Maria, avanti renna l'annigà. E a Chiavano vi ribassano i più rispetto a fargli come si ripassavano in galera, compreso. E va, e ti magrendi malissimo, grazie. Ma c'era Pompugno, mi sembra che ho sentito. Pompucu. Ehi, già ci sono, Natali, ciao, mi hai sentito. A quelli vogliono messi in coso. All'arsenale, lasciati lì. Già ci sono le cose, gli animali. A voi a posto lì per fare il pastore. E questi si mangiano là e lì che bisogna. Chi si mangia lì di tutto, Antone. Allora c'è la base di vetta che si isola. Pensa all'ultimo aino, all'ultimo cinghiale si mangiano. E va che se li mettono nella sinana distruggono l'isola a quelli. Non ti puoi attrevere a mandarli alla sinana, non lo so, vandali. Ma perché non li serri? Allora sì, vedi serrate, che si carci di gaggi visto io. Allora andare, e non li devi fare le macchie scimmie, li bacciano mangiare dallo sportellino. Allora, senza mai abbriaiana, a chi si l'abbriaiana esce, nel cazzo distruggono l'isola. Stai scherzando? Ah, che quello... Ma si vende nei canti, beh! Tutto che su che la gatta li si vende! E allora, dimmi tu, dove puoi dare la sinara? Così il cazzo la distruggono! Tutti i cinghiali che bisogna per amici in chi vi si rimagnano! A chi ci ribigliano con le mani? Poi si fanno nelle piantagioni di cannabis! Cazzo, così diventano i miliardari, altro lei! Cazzo, così diventano i miliardari, diventano ricchi, si fanno i piantagioni a virui! Ma che? Fanno il contratto, andano in elicottero a pigliarsi la merce! Cazzo! Cazzo, non è da che la ginara, chi ha la fase ne vedda? Sono quando passi chi mi sei fumato, Antone, ti fuma. tutti sconvolti li trovi poi lì. E allora, in chi il caso ne fuma è andato a fumare? Cazzo, quella bella stagione in chi? Non si da fumare appena appena è di buio. Che ma che? Sta freddo si faci lì! Ma dai! Tuia, dimmi! Sì, così faci nella freddo direttamente! Ui, a vera si c'è più cultivura, mi sa niente. Lo strato esecutivo e quelli che entrano gliel'ha premesso in chiaro nel contratto, mi. Il primo mese che non pagate scatta un pesimo che non viene pagato. Sei mancato, sei riuscito, Natali. Ho detto, il primo mese che non avevano pagato, l'abbiamo infrattato subito, nel contratto mi l'abbiamo buccio. Il primo mese che non pagate siete sfrattati. A rinnovi gli erano entrati. Ma che? Purtroppo, boh, ma comunque io gioco così dimmi una lente popolare. A chi? Boh. A io l'ho sentito io, mi dita davanti a me, che dimmi? Infatti, a presumere di me ne proprio, se no non si erano confusati così. Vedi che una famiglia ci aveva dato lo sfratto, alle botte di Vagliana Nova e tutto, si è indagato a passare, un paio di lì, sono andati di notte, si hanno dimontato gli anni, gli accessori del bagno, le finestre, si stanno buttando tutto, e la bomba di petto, hanno distrutto un idramese che hanno per rimasto. Ah, pensavo che andato d'ingresso si stanno bussando. E me vuol dire che si via, grazie. Intanto chissà a casa la gente sta arruinando, per la mia adesso l'hanno data. C'erano roba di 3 mesi muratori, lavorando, l'hanno rifatta tutta nuovo, come... L'ultima riga ne è finita i brabicamuri per la chiesa in trendi, che si le ha dato l'ente popolare, anche se non si sarebbe buttato tutto. E tu fidati. Se te lo sto dicendo, ne hanno tirato anche i fili dall'impianto, le brigi, tutto, termosifoni, tanto quella non è rastrellato. E vuol dire che vi ha punito in un'altra casa? O a 25, magari avevano bisogno di una e si erano i commerciati. Forse buono, boh. Però li fate sì, la che i bravi camuri hanno finito per la chiesa in 30 mobili. E se noi avrà rimasto nulla di chi ci hanno fatto. Ah, chi c'è poco ma sicuro, Ma, via. Riprendi, Antone. Ma cosa stai mangiando anche tu? No, c'è il cane che mi sta girando le balle che vuole uscire. Un cazzo ci vado giù io, abbiamo freddo. Per lui. Già pisciato a casa, mi interessa nulla. C'è un freddo fuori da crappare. Mettilo nel terrazzino, non c'è il terrazzino, quello piccolo dove va, dove c'è le antenne. Così si dice. Cazzo piscia le lente, da buca, deve dare puri. Sì, già è aperto, infatti. Già esce fuori. Allora, gli metti un vasino per fare la popò, vero Natali? E allora, lui me l'ha pucciato pure con un freddo, mia moglie l'ha già pucciato e stamattina l'ho portato io. Se no il cane si sente male, bisogna portarlo. Io ho messo il giubbottino impermeabile stamattina al cane mio e l'ho portato. Perché il mio gli ha messo il pallolino, poco fa gliel'ha cambiato ed è a posto. E c'è il pallolino, il pupo, la pupa. Quella risa. No, il mio l'ha portato mia moglie poco fa, che doveva andare poi in chiesa. Me l'ha portato ed è andata in chiesa, perché oggi è sabato. E dovevi andare a fare frutta. Cosa ti voglio dire? Stamattina l'ho portato io il cane. La giubbo sul giubbotto, non se ne voleva punire nessuna di rimanere. Sono riuscito a punire via, io chi è più venti. se ti stava piovendo poco a poco, sono uscito e l'ho portato ugualmente. Stamattina l'ha acceso mia figlia, però adesso c'è freddo, mia moglie non ce lo scende. E vabbè, Bruno, state che l'ha acceso quando è salito, l'ha pulita con le salviette e gli ha messo il panno. A chi gli ha dato la salivrici è stata pisciarita, vabbè che vecchia, dunque, è pure la vecchiaia che conta. Li prendi con Antonello che smonto questo microfono che me ne sta perdendo la capsula, chissà cosa cazzo è successo, guarda, mi do cambrillo. Figlia, Antone, riprendi, pigliare le ballolini, Antone. Ah, no, non ce la porta aperta, se vuoi uscire esce, se no se la piglia il nappo, io devo stare a svegliare con lui. Cosa vuoi? Portarlo giù a morire di freddo io per lui? Per farsi la passeggiata 5 minuti e pesciare tutte le cose? No, no, no. Non va a giocare a lisci oggi. Pigliare, poi cazzina, il garrazzino lo dà anche qui. Sa dove che li vai così già a comprendere il pisciare, che mi si è pisciato. E appunto per quello già gli ho aperto la porta e già è tranquillo. E glielo dici, vai fuori, vai di là, a dove si anda. Peggio per lui se non ci vuole andare. Già si piscia in terra. Lo raccolgo e va a fancuffia. Ma sul treno che ha buccato. Mica c'è la rotta buccata. Ciucu ciucu. Stasera salutoni. Avanti. Sento benissimo, non vale bene, ma già ti sento, ti tiro fuori. Sono insieme a Antonello, lo senti? Natalino si è assentato per controllare il microfono. C'è Antonello Pompugno, lo senti, Antonello? Sì, glielo sento a Marco, a voglia. E appunto, il colmo si davvero. Allora lo senti, beh, meglio così, anche a Natalino lo senti, Marco. Cosa? Avete parlato assieme in pratica, tu e Corso, Graziano. Prendi Marco! Tranquillo, io riprendo solo quando mi rilanciano. E tu però rilancia, Antone, se non rilanci io non sento. Appunto per quello già lo so. Allora Marco, cosa stai combinando di bello? Freddo non ne hai? Tu sei l'eccesso. Tu, ora c'è la diarrea, sì. Mi si è allentata la capsula dentro quel microfono che stavo usando. Questo stava a prendere cosa è successo. E poi dire da lì esci meglio, Marco. Allora stabilizzati lì e non ti muovere più. Appunto, c'è tutte le comodità. Vero Antone? C'è anche la carta igienica. Nel caso dove scrivere qualche lettera. Segnale 7, sì. Che ha qualche trombaria, sarà. Sarà anche Gian Maria, sparito Antone. Alle buone nella 27, accendila a vedere. Antone, adesso lo senti lì. No, non c'è, non c'è. Ho controllato, tutti i canali vuoti ci sono. Allora se abbaidenni a John Way, se abbaidenni. No, no, mi ha risposto, ha detto che già è qua, il 27 su 23. Chiamalo. No, non ce l'ho attaccata. Ho attaccato, cosa devo fare? A destra e a sinistra? No, no, o uno o l'altro. Ma sei per amici di Gabbo, chi ti che mi chiamava il BMR, chi ti mi chiamava la 27, ma insomma, ehi, o lascio uno o lascio l'altro, caffè e vega, non ve, non me la putti nuda, ma ce la faccio, come fa a rispondere a una a destra e a sinistra? Piano piano fai, allunghi una mano a destra, una mano a sinistra. E vai, non ne comprendi nulla, la farina è la giubbata così. Chiedo da poi, ma di che non si fa così, se sei in PMR rimani qui, che dato mi dici, se sei nella 27 rimani nella 27, ma vi puliti la cosa, allora nascendo uno solo e buh. Io già sono in PMR sempre, poi nel caso di quel tale 27 già entro. Io se decidono di mettere di andare sulla 27 metto la 27, siccome ti chiedi non per mai nessuno, accendo questo prima, Se però poi decidono di mettere la 27, allora accendo la 27, ma noi che poi sul campo, qui no, che barare no, che tre parole che dà, non fai, come fai? Non ce la fai, no. È vero quello. Tu non segui né nel discorso né a destra né a sinistra se stai parlando, oppure lui devi chiedere, magari sta aspettando la risposta tua e stai rispondendo di lei e rimane male, no? A chi non gli dà subito la risposta, e cosa fai? Ah, che quello già è vero, no? Io adesso sempre qua. E quando sono qua rimango qua, quando poi devo andare di là, spengo questo e vado di là. Anche se c'ho l'apparecchio per dire che fa tutti e due in uno, per non stare a... allora ne uso due. Capito? E poi anche fastidioso, provate a lasciarlo acceso uno o l'altro e a rimanere in ascolto. Andà col carità e non comprendi cosa si fa vintenni chi dà. Oh, cavolo, non c'è l'altro, non mi tarissa. La caffè è bella, non bevo, buonanotte. Ma poi sempre sei tutto speciale, sì. E allora invece, aspetta Gian Maria, va il radar. Ah, beh, ma ci fa vedere i gruppi stasera. Sì, mi sa che tu sei magne, pensa che l'avevi fatto pure su Bandoro, non sei entrato. Di la verità, giuralo. Sì, hai ragione, vai. Antonio, buonasera, buonasera anche a Marco. No, no, sto facendo cose, continuate, continuate. E parla più poco. Lascia un po' di bianca almeno. Ehi, ehi, buona merenda. Ciao Gian Maria, salutoni anche a te. Ben ascoltato. Ok, avanti Marco. A me che dono, ah, il coso ti mangi, quello arabo. Ah, l'hamburger mangi. Pensavo la... come si chiama? La, il kebab. Quello già è vero. Io... domani notte mi mangio puddo, arrosto. Ma lo sai che è quello che mangi lì? Dopo che ti mangi il kebab, ti vado in grassa come un vitellino, Marco. Ehi, così la bevi con la gruppa e puccati, come te gli sono americani, diglielo Antone. E allora, già è vero quello, già è vero, te lo caritare. Aspetta un attimo. Catalino pane e vino, aspetta, aspettiamo. Poi che fanno male quelle hamburger ci sono lì, Marco. Davvero il sorso mi pare il mezzo di un mese e state lignati friggenti. E adesso che ho passato, so che tre abbiamo un caffè ma tambagliato, mezzo, lo piace di mezzo, bruciato di sale a candela, che sorso friggenti. A te me. Dove, dimmi. Città mercato, sono entrato dove fanno i panini, gli avveniamo con gente bussata a mangiare i panini e stralaci. E ero al bancone aspettando il caffè, un fiaco dozzo, cotto, ma cotto, mille volte, mi ha detto che adesso sono un mese senza giamba oggi, friggini e bu. Ma la mano è andata di cipolla. L'olio proprio l'hanno consumato al massimo. Chi ci vuole l'olio mottone? Cazzo di mottone. Olio di colza quello deve essere, quello che usano per il diesel. Olio castro, e Marco si fa dei barili di libri. Ma gli assati che s'hamburga, Marco. Così la beppa è morto. Grazie. Ma l'hamburger già se la assorbe, non ti preoccupare. Cosa entra? Grazie. Ma le fa vedere tante al televisore, specialmente quei programmi dell'America, la notte, mi dici che cose che fanno patatine fritte con ketchup, pollo fritto, hamburger, e infatti tu ti fai male, vivo la gruppa e pulcalla, che manco dalla macchina se ne va, oh. bene, sto uscendo di radio. Perché c'avevo la capsula, siccome questo è un parlascolta, no? Che si muoveva dentro, oggi butto roba di atta e ho risolto il problema. E l'ho chiuso attorno. Va bene. Aspetta. Aspetta che ce l'ho che mi ha chiamato, chi è? Pompo. Ti posso telefonare, Marco, e ti dico cosa tutto messo. Sì, che ti sento, aspetta. Fatto la situazione, se no guai. Aspetta, stavo parlando a Tario due minuti. Chi sei? Avanti, chi ha chiamato? Sì, adesso mi ha ascoltato qua. Benissimo, buonasera a tutti. Io sento a te, a Graziano e tu. Sì, a me Graziano, ho capito che sei. Benito. Ah, ciao Benito, salutoni, se me l'ha ascoltato. Allora, Graziano, c'è Benito che è entrato, lo senti? Sì, ciao Benito, buonasera, ben sentito. C'è anche Marco e Gian Maria si è assentato. Non lo so, a Marco... Se lo senti, ah, c'è anche Natalino. Scappa, dai, 1-1, avanti, dai. Condizione precaria qua. Figlia, scusate un attimo il telefono. Figlia, ciao Marco, a dopo allora, ci sentiamo. Natalino si è spostato al telefono. Grazie, riprenditela. Figlia, e beh, ce l'è freddo lì, bene. Non lo sento più Benito adesso, Benito, lo sento Graziano. Sì, ogni tanto mi arriva forte, ma sono io, secondo come mi muovo, tu come mi chiedi. Segnale quella è 0, la radio è 1, 2, non di più. Dopo, quel Bauken, già lo sai, non bomba qui. Sì, l'importante è che arrivi, anche se non c'è il segnale, l'importante è che c'è la radio, poi del resto non succede niente. Graziani, tu riprenditela. Aspetta che vado a chiudere la porta del terrazzo, sono biovolento che azzera. Ehi dai, saluto, che ancora sono in fase di allezione. Ehi, Benito, però ti sento un bel basso, un po' in mezzo al QRM, prova. Ehi, grazie, sono dentro casa, capito, quindi davanti... No, c'è il QRM in mezzo, si è disturbata la radio. Vale. Ho chiuso la porta. Ciucchi, ciucchi, ciucchi. Tu sarai, Antoni? Sì, ho chiuso la porta, sennò mi entra freddo dentro in salone. Già basta che c'ho la... quando c'è quella sotto casa mia che c'è la maniera di aprire la finestra del coso, dell'androne. E quindi mi entra un freddo, a me passa sotto la porta va direttamente al caminetto. E quindi si va Bonifaccio. Beh, tu all'interno della porta mettici un tappeto avvolto a parte dentro della porta, in terra, tra la attaccata alla porta, così non te ne passa aria. Sì, se no ci metto un tappeto grande, me lo prendo e glielo metto direttamente prima di arrivare alla porta. O se no apri come vendono quelle strisce bianche, marrone, adesive, che c'ha lo spazzolino. Chiudi la porta e all'interno levi il nastro e la appiccica la porta. E non le passa di aria. Devo cercarlo, l'altra volta non l'ho trovato. Ho trovato solo quello per fare la spessore delle finestre. E gli andava bene, uno. Solo quello spazzolino devo trovare, in modo che rimane agganciato alla porta e quando apre la porta e chiude la porta ti fa la freno. Se ebbi adesivo, levi il nastro e lo attacchi, lo tagli a misura una volta che lo attacchi, pigli il taglierino e lo tagli a misura della porta. E quello è un antispiffero e rimane appiccicato alla porta. Quando chiudi i spifferi non ne passano. Ti compro come pare che costa 2 euro, sono alla Bricome quando entri sulla destra in fondo, di appena entri no, che attraversi dove c'è quella sbarra, vai dove le casse in fondo a destra, sono lì in alto appesi, bianchi, marroni sono. Allora me lo prendo, lunedì o martedì me lo prendo, così me lo piazzo. Ovviamente uso un sistema per il caminetto per non entrare aria. Quando fa vento sembra... fa un... Per il caminetto ti fai... cosa c'è? Una bocca solo? un pezzo di multistrato, di quello sottile, di quei pannelli che si usano fini, degli armati di dietro, una ipardina. Tira delle misure per la buoni, e così non entra manco da un camminetto aria. Io a mia cognata gliel'ho fatto il multistrato, cioè avevo il multistrato, gli ho tagliato il pannello e gliel'ho messo, e aria non entra. E allora faccio così. Uno di quei pannellini multistrato gli metto, gli faccio una L in pratica. Gliele anch'io, vi metto la maniglia e a me rimane chiuso e aria non entra. E io l'ho fatta a mia cognata, gli ho messo due maniglie, quando si può accendere il fuoco dentro per arrostire qualche domenica così, me lo prende, lo sposa, lo appoggia al fianco e si accende il fuoco, ma non si fura, sempre d'inverno. E c'è la cucina dentro il camminetto, la Garri. Poi quando l'ha utilizzato, l'indomani mattina, lo burro si può ritornare i pannelli e aria non è passa. E così c'è bello, il camminetto. Quello che ho io non tira nulla però. Neanche faccio qualche cosa, li metto una di quelle ventole. Quando fa vento che aspira dall'interno verso l'esterno, solo li metto una vetola di quelle piccoline a 220 di cosa, di computer. E a me l'aspira con quella. Ma perché ne levi il cappelletto che c'è su e gli compri il cappelletto quadrato, c'è di tutte le misure della fumaiola. E gli metti quello che gira, quello che tira, aspira, no? Quello ci vuole, Antone. Alla bricco, per questa ragazzata, basta che misuri il fumaiolo. Ne vuole un tappo che brava e si incrassi chissù. Le porre al limite un tassellino da sé, vanno più cazzi duro vento, o se no se gliele incrassi bene già non esce. Quello che ci vuole, a vedi tira. Quello li metterò di seguito. Adesso vediamo un po', devo cercare di fare qualche sistema. Ma dopo che non trovo una stufa a pellet di quelle con carico frontale, ce la infilo dentro e poi è fatta. Con un pezzo di tubo naturalmente, non è che la lascio così. Se no tutto il fumo mi entra dentro a me. No, ci devi sempre mettere il tubo della stufa a pellet infilato dentro quel tubo, ne levi il cappelletto sopra quando entrava, glielo restringi, lasci il tanto che esce il tubo, no? Poni due pezzi di mattoni, un poco di impatto, gli fai la sagoma con la moletta e fai uscire il tubo della stufa a pellet col cappelletto. E andava in Mattessi. Ah, che quello già è vero. Adesso in seguito vediamo, adesso in questo momento non c'ho soldi appena in casso dal comune dove devo pagare questo mese, ho detto. Vabbè, adesso vediamo un po'. Qua c'è la zia di mia moglie, se l'ha comprata il mese scorso. 580 euro la stufa a pellet, è già bellina. Ed è un treno, non è pochi casi. E se l'ha piazzata con un pezzo di tubo che si affura e andava. Ah beh, quello sì. Già va bene, sì. Già scalda già. Il problema è salire il pellet sopra. Perché il garage l'ho affittato qui, dove metto il pellet nell'angolo in fondo, dietro il caminetto, 5-6 sacchi per volta. E te lo metti anche nel pianerottolo tuo, prima di fare quelle altre scaline che arrivi alla porta, te la senti chiudi 3-4 sacchi. E così si depende quello di sotto, che ci ha messo la stufa a pellet a legna, si è messo. Quando accende quella stufa a pellet sembra che c'è la pizzeria attaccata. E allora decidati, chiedi, e te li metti a fianco al camminetto, tanto non ti date nel bacchiglio. 4-5 sacchi, le buone un innato all'altro, la di napo. Ah beh, quello già è vero, possiamo fare anche così. Io quello che mi porto su, quando ne ho 10, 15, 20 sacchi, lo lascio nel pianerotto, però da me è tutto chiuso il pianerotto. Ci metto in terra una striscia di cartone e me la sento tutti chiusi. E con un telo lo tengo coperto. Vabbè, non ci sale nessuno da me, è tutto chiuso. E dentro a casa, vicino al sofà, me ne tengo sempre un sacco. Andrò in mio e mi dentro un altro. Già va bene, già va bene. Cosa c'è tu? Mi si può sapere cosa vuoi? Sempre in coda a me si vuole. Seduto, eh. Mia cugnata è in campagna. Non c'era il camminetto. Però, cazzo, era un travaglio. E che cazzo di rubù che ci sappia dove tu fa pellet, quella programmabile come la mia. La programma, prima di uscire dal lavoro, un'ora prima si accende tutta da sola. A quando arrivi la casa è già bella che calda. E poi la spegne. Oh, la lascia poi, se c'è caldo la abbassa la temperatura e la lascia accesa. Come faccio qua in casa. Se c'è un bel caldo gli abbasso la temperatura ma la lascio accesa. Se magari da qui più a tardi fa di più freddo, allora l'aumento e stai sempre bene, capito? E io quello già. Già gai. Ci mettiamo la stufa, pellet, come ci mettiamo così. Ti procuro una bella signorina, ti procuro e ti metti vicino alla stufa a pelle e ti facciamo la casetta riscaldata. Sì, a Rosario, cari miei, va un materasso, sarà di grandezza 60x60. E vicino alla stufa c'è la copertina sul materasso e vedi che dormi da aumenta un po' qui. Visto, hai trovato come fate ringraziare dal cane. No, lui già si mette vicino alla stufa normale. Se gli metto una cosa in terra, lui si corica di lì davanti, si sdraia a calduccio. E che freddoloso questo cane, mi. E lì ci rumate essi. Quando mi vede chi la busa, poi si sbiatta davanti, azitegni, pusata, no, pusata, azitegni quando la accende, e io dico, mica la faccio accendere adesso, più tardi la accende, ma vai da Marriduccio, un po' di voce mi fa di... Te lo faceva capire, ti ringhiava per accendermi con la stufa, sono t'ammazzo. Sì, adesso mangiamo cosa basi. Punta il capo verso la camera da letto e comincia a baggiare, cioè, come da dire, sotto i mesi, per dargli il biscotto. Ehi, perché i biscotti la mattina presto li dai? Sì, e tu sono venuto a te ne mangia il capo. Ah, gli piace, un bel piace. No, io biscotti no, non ho mai fatto assaggiare al cane che c'ho io. Di solito mangia, oggi ho mangiato ravioli a pranzo. Già mangia i finocchi, gli piacciono parecchi, i finocchietti. E ce ne ho uno intero, se lo mangia, ma con pezzo me ne lascia. Allora, già lo sai, già mangiandolo, pasta e ricotta, le lumache, Barilla, quella pasta asciutta a Barilla, allora tipo lumaca. Sta sbravato, una vaschetta di ghissi. Pasta ricotta, però gli hai messo il sale in mezzo alla ricotta? No, la ricotta muscia, quella fresca. Quella già è buona, mi. Catta. Ma come sturai questi maccarroni? Ne vuoi altri? Ma non te ne una vaschetta se ne ha mangiato, dico le vaschette pure il sirolo. In quella vaschetta c'erano i funghi. lo c'ha quattro e gli ho messo a asciugare, ha detto quando li tocca a mangiare per i bonghi lunghi, da poi si la lampo, no? E però dicevo, e però, mi aspetta bene, sbranati si la. Ui, c'avevo fame, mi sono piaciute tanto, mi sono piaciute. Ah, aspetta un attimino che ho trovato una cosa, aspetta. Già sono qua. E beh, Antoni, ma voi? Ah, ci sentiamo dopo, dai. E dove stai andando? Uffo! Ehi, e cosa stai facendo? Alla radio sono, c'è l'Antonello, si è assentato. Gio Maria è entrato. Ma dove tu sei? Ehi, io. E beh, grazie. Mi avrei tu. Bubu. Sì, c'è prende di neve. Antonello mi ha detto che l'hanno bicchiere sopra la rete. Sì, freddo di neve. Stamattina stava grandinando. Stamattina sì, ma oggi pomeriggio mi è stata una mezz'oretta, stava fioccando, solo che non ha attecchito. E beh, se la carriera in fuso non ha attecchito. E beh, già lo so, mia Maria sta mangiando un pandoro. Ma chi? Ancora pandoro? Non lo ho più visto. E lui ce l'ha da Natale, ce l'ha anche io uno dentro l'armadio, non c'è domani che lo mangio. La volevo comprare per fare un dolce, ma non è già uno. Anche alle rosticce, alle lenti? No. C'erano lì al latte dolce, alla Conad, mi fa. E alla Conad, come sai, tu vabbè. E c'erano quelli, come si chiama, quelli della Paoli, 2 euro, 1,99. Sono buoni, io l'avevo preso lì, da faccio il trenino. No, su, a latte dolce. Ah, vicino a Gio Maria. Sì, via. Aspetta. Poi mi senti? Sì. Ca. Eia. Senti. E tu mi senti? Chi è ti sente? E tu? Ti ascolto. Ma il Vox stai usando? Vox? No, quello da... fisso sto usando. Ti ascolto bene Voglia. Sì, con l'antenna piccolina. Sì, ti ascolto Voglia. Ehi, io. Non mi dici. Questo è più bello, eh. E beh. È come se tu mi metti una... vabbè. Adesso una 500 con Mercedes. Noi ci ha acceso la ventolina un po' dell'alimentatore, un po' calduccio, ma già, non è che li fa zinuta. E l'ho visto dai cinesi, cazzo costa, costa di meno su eBay. Mi sa quello che ho visto io è da 25 ampere, mi parlo, da 20, forse da 20 ampere. Quello che ci ho conservato è 30 ampere, l'avevo preso dal cinesi, a Pretaneta. Ed è uguale identica a questa che ho preso su eBay per 50 ampere. Ma che nome hanno? Io scrivo alimentatori switching, però poi... So, aspetta l'orecchio, c'è scritto. Aspetta. Ma me lo scrivi, fammi una foto su WhatsApp. Mi fai la foto e me la mando. Beh, è scritto in inglese. No... no, mo... no, mo, chi è, è scritto, e poi l'altro, deve essere scritto, o in inglese, no, non si capisce, comunque c'è scritto in grande, no, mo, chi. Te lo regalo io, Luca. Cos'è Gio Mari? Ciao Gio Mari. Te lo regalo io. Quanti ampere? Siccome c'ho quello del baracchino a casa, che me l'ho autocostruito io, no? Funziona. Però ho notato che dopo di un po' la luce del baracchino se ne scende. Vuol dire che murenti, eh. Eh beh, qualche condensatore esaurito c'è. Eh beh, perché sono switching quelli poi, vabbè. Come, allora, mi aveva regalato Luca un computer qualche anno fa, no? E da quello di Luca... dicevo l'ufficio, ne avevo staccato l'alimentatore perché non funzionava quello del computer. Praticamente c'ha gli agganci, l'ho fatta apposta sicuramente. Infatti me l'ho messo sotto il mobiletto, no? Dove c'è il baracchino lì. Però saranno problemi adesso. Con le cose, con le ventole illuminate. E da quanto appare? Bravo. Ma lo faccio, l'ho preso. Sa, te lo regalo io uno, là, di quelli cinghi che ci ha graziato. Tanto a me non mi serve. Però ci troviamo, te lo vuoi e te lo usi. Switching, quello che ha preso 50, da 50 ampere, switching è la marca. Oh, switching è il coso da alimentatore. Perché c'è? Al trasformatore, che è quello che ho a casa, forse anche quello ha problemi. Che mi aveva regalato Claudio, che mi hanno detto che bisogna cambiare i condensatori. Adesso pesa un trono, pesa un trono, minimo pesa una ventina di chili. Ehi, a ferrovici per dire. Passa domani e te lo porti via, ste usi. Maria, ma perché quello che abbiamo preso insieme? Switching! E allora, quelli sono tutti trigger. Capito? No. Sì, switching, sì. Aspetta, mi stavo telefonando, riprendete. Ehi, roba vecchio, no monkic, boh? E però si capisce l'altra scrittura. Sono tutti cinghi, sono tutti cinghi quelli lì. Oh, anche quello di 30 ampere. E allora? Tutti cinghi sono quelli lì. Non lo sapevo. Vabbè, ma già sono buona, con la marca già è buona. Già va bene. Bisogna distaccare la ventola però. Perché se no ti crea rovio, capito? Basta distaccare la ventola. O se no li metti un interruttore e te, quando la scalda attacchi e fai funzionare la ventola di 5 minuti, però la pensa dopo lo distacchi e va sempre. Attimi, l'ho accesa un paio di minuti, è già congelato, adesso l'ho spenta, era accesa, l'ho accesa 2 minuti fa, è già ghiacciato e l'ho rispenta. Oh, questo lo consuma, consuma più baracchino, capito? Infatti tu c'è l'interruttore, no? Sì, vabbè, già si mette in funzione anche quella della radiolina in funzione, da sola. Ehi, quello va bene, per quello di raffreddare l'apparecchio. Non c'entra niente l'alimentatore, capito? Una è la ventola dell'alimentatore, una è la ventola dell'apparecchietto, capito? Ma tu sull'alimentatore che c'hai, c'hai la ventola, la puoi accendere e spegnere, no? Sì, però se voglio lo giro, glielo punto alla radiolina dietro. E accendo la ventola, lo raffredda la ventolina dell'alimentatore, chissà non si attacca mai. Lo raffredda anche così, però adesso non ce n'è bisogno, magari in estate sì. Da, si raffredda da solo, quello è automatico. Una certa temperatura ce ne sente nel baracchino, no? Però quando supera quella certa temperatura si accende automaticamente, non si chiede se bisogna che li metti l'alimentatore vicino. Io ho fatto la prova l'altra volta, guardavo sempre e non si azionava, capito? Perché era raffreddato dalla ventola dell'alimentatore, attività di busto, ad aletto. E la vinturava, no? Vabbè, ognuno fa come ce li piace, però non c'è quel caso, capito? Io sto parlando dell'alimentatore, quando l'alimentatore scalda, quelli cinghi non scaldano perché c'è la fettolina sempre accesa, però ti può creare ronzio. Allora, è come hai fatto, o ti, chi ti abbiano fatto, hanno distaccato la ventola, hanno messo il torrettore, tu la ventola la puoi accendere, se ti piace la accendi, se ti piace non la accendi. Così che quando scalda, pigli e la accendi, quando la prende lo freno a testa. Ehia, stava parlando, ha fatto un rumore. Quando stava parlando, ha fatto... E chi, il mio? Ehia. Ehi. Strano, perché qua sta funzionando perfettamente. E forse è la recitazione tua che fa, certe volte fa quello lì. Tutto lì. Beh. Ah, l'attore è messo in Africa, sì. O è affondata la nave. Non devi rientrare. Animali devi rientrare. Oggi, sabato. Oggi dovrebbe essere che abbia rientrato, lo so. Non so se viene più tardi o se è già rientrato. Comunque dovrebbe essere già arrivato, penso. Allo? Infatti, chi è? Chi è? Buonasera. Ma chi sei? Tu sei? Ma non sono io, sono il gigante e la bambina. Buonasera, Gio Maria. Non si è sentito nemmeno Bacchisio più, boh. Ah, Bacchisio, buonasera, ben sentito. E lo disegna Gio Maria, gittore gentile, o forse ancora in punta la torre Eiffel. Ora dovresti arrivare sopra la botte di Londra, non torre Eiffel, ehi, Francia, a Londra. E lì, a Londra della torre, e sopra di un botte di Londra. Cazzo, seguimi, Gio Maria. Mari, non lo senti a Bacchi? No, non lo sento. Chi non ti sente Gio Maria? Come mai? Mi senti, non lo sente Gio Maria? Gio Maria poco fa stava parlando. Buongiorno! Avanti! Buonasera! Drommito, drommito, grazia. Capito, hai? Sole ha mandato le foto al Marino e doveva rientrare stasera. Sì, aspetta, Bacchisio, che ho sentito uno che voleva entrare, che ha detto buongiorno. Avanti, chi vuole entrare? Buonasera! Buonasera, Cassiano! Ciao, Gio Maria, c'è anche la chiesa, però io tutti e due non ascolto, ascolto solo Cassiano. Avanti, Cassiano! Marino, basso ti sento, come mai? Perché sono sotto oggi, sono sotto. Sei sotto? Ebbene, lo senti a Bacchisi a Gio Maria? Aspetta, rilancia Gio Maria. Gio Maria! Sotto, no! Ah, Marino, buonasera! Tu pure nel targo ieri. Oh, Gio Maria, buonasera, adesso ti ascolto benissimo. Ma da chi sei negativo lo ascolto? Ehi, faccio una cosa, Gio Maria, fa una cosa là, se prendo del lavoro, poi veniva gente, poi c'era un po' di stanchezza, dunque è tutto via. Sì, se prendo apparato, scatto. L'importante è che si movimenta, almeno fa un po' di ginnastica. Vediamo un po', signor Bacchisio, se riesco a sentirlo qua. Avanti, signor Bacchisio, buonasera. Buonasera, signor Figaro, buonasera anche a Marino. Marino lo sento in mezzo al QRM. A te già ti sento bene. Avanti. Sono rientrato, eh. Ok. Bene, bene, Bacchisio. Poco fa ti abbiamo nominato, ragazzi. T'ho sentito più a Bacchisio. Ha fatto il targo cosa, Tore, ho detto Bacchisio, l'ha messo a prezzo, invece eccole qua. Va bene, riprendi Grazia e fa entrare l'amico che vuole entrare. Ehi, avanti Luca. Ehi, dai, sono rientrato dal telefono. Saluto a Bacchisio, buonasera, sono Bacchisio. E a Marino, non so se mi ascolta, lo ascolto, Non dico bene bene bene, però riesco a tirarlo fuori, dai, avanti Bacchisio. Sì, ciao Luca, buona serata. Marino, stasera mi sento un po' bassino, lo sento. Avanti Marino. Vediamo un po', Marino, mi ascolti? Ok, ciao Luca, ben sentito, sì, ti ascolto. Ti ascolto un po' disturbato, comunque la modulazione già si capisce. Bacchisio negativo non ascolta Bacchisio, Bacchisio non ascolta, avanti Luca. Positivo, no vabbè, io li ascolto tutte e tre bene, che sono vicino a me, dai. Se sconfuri al terrazzo io mi prendo anche a schiaffi. Avanti, Dio Maria, riprendi. Ok. Infatti, deve essere che cosa, Bacchizio, no, anzi, Marino non lo senti a Bacchizio, non l'ha risposto. Marì, quando mai lo senti a Bacchizio? Non lo so, ascolto tutti e tre, ma Bacchizio negativo, non l'ascolto. Ascolto benissimo a te, mi avevi sparato, tu, Graziano e anche Luca. Luca un po' disturbato, ma la modulazione già si capisce comunque. Bacchizio negativo, non l'ascolto. Questa frequenza è un po' balorda, per cui se trovi l'ostacolo poco non passa, per cui forse anche per, come io poco fa lo sentivo a Bacchizio, adesso ho cambiato e mi sono spostato e adesso lo sento perfettamente. E così è. Vai, grazie. Ehi, Bacchizio, ho sentito, Marino non ti sente, cerca di attrezzarti, riprendi. Sì, ciao Graziano, no, io Gianmarino l'ho sentito poco fa, un passaggio e poi niente. Ci mi sono attrezzato, già ci mi compro le bretelle. Sì, allora alzala un altro po' a vedere. Boh, mi pare strano, non c'è tanta questa differenza, neanche da me, da Luca, è vicino a te, ci butti attraverso la strada ed è arrivato. Prova a alzare un altro po' il tubo. Sì, un tubo alto, il freddo che fai? Non saranno. Ne parliamo all'estate adesso a fare i lavori. Allora, per freddo, grazie. Sì, no, va, no. Magari una giornata bella che si può lavorare. Ti procuri quel tubo telescopico, se no lo vendono alla Bricom. Pigli chi su. Chi su a San Be? Vero Giommari? Sì, problemi di pali già non ne ho due abbastanza. Uno sale fino a 12 metri, grazie. Quello che tu guardi che c'è il discone sopra, quello sale fino a 12 metri. Allora lo vedi, lo so, l'attacchi lì quando è una bella giornata che sei libero. E la sollevi, non so, di 2 metri e fai una prova. Sì, adesso a tempo bello, quando fa tempo buono, perché sono, diciamo così, sono due antenne, una sotto l'altra, e dunque hanno lo stesso valore, solo che una non serve e l'altra non i vari. Sì, vabbè, Luca, riprendi, chiami a Luca, ti aiuta Luca che è giovane, forzuto. Con il pezzetto, diglielo lui. No, sono un attimino Luca, scusa un attimino. Vi chiamo io e sto provando un'altra antenna, riprendi Luca, scusa. Lei da portare su l'antenna ci vuole un secondo. Basta mollare se sono due bolloni. Mollo i due dei due bolloni, perché li fanno da prigioniero. Tiri su e stringi, poi tutto fatto. Il lavoro da fare è poco. Solo che bisogna avere tempo buono. Forse senti a Marino che ha cambiato l'antenna. Sì, Marino è in campagnolo. Vediamo se mi ascolta in questo passaggio. Marino. Sì, non lo senti a Bacchizio. Marino si è caduto dalla gamba chiusa con l'antenna. Riprendi, Gio Marino. Ok. Allora... Oh Bacchini, niente sai, Tore si è rientrato. Non ho capito, Tore? Si è rientrato. Dovrebbe entrare stasera, diciamo così, verso le 3 dovrebbe essere qua. Deve essere che sia andato a fare qualche commissione, oppure a accompagnare la signora dalla figlia. Dove rientrare quello da lì? Anch'io infatti sapevo che doveva rientrare stasera. Per cui ho detto, ma strano, Beh, allora evidentemente c'è cose da sbrigare, per cui non entro per quello, ci farà sentire anche domani, dai. Ormai, dai qua. Bene, Marino, ci sei? Sono entrato, come l'ascolti, Giovanni? No, io ti sento benissimo, a fondo scala. Ma è meglio di prima o lo stesso? Oh, ma... No, ti sento bene, ti sentivo bene, poco fa ti sento bene adesso. Marino? Senti? Io ti ascolto benissimo adesso, Ah Luca, ok, mi devo girare. Sto utilizzando l'antennino, una antenna, sto utilizzando. Hai capito Giovanni quale sto utilizzando? Tipo quello che c'è tu che mi ha dato Giulio, avanti. Ho capito, va bene, va benissimo. Ok, Luca, anche Luca l'ascolto chiaro, senza intrusi adesso. Avanti, grazie. Sì, ti sento meglio, più chiara la voce, anche più forte mi sembra. E anche la tua modulazione è più chiarissima. Bene, ve la appoggio a tutte e tre. Avanti, Bacchisio, ti lancia Bacchisio, se non ti ascolto. Avanti, Bacchisio. Senti, adesso mi ascolti? Io ti ascolto a bomba adesso. Marino, lui ti ascolta a bomba, l'hai sentito? È arrivato un segnale, però la modulazione è negativa. Meglio così, dai. Vuol dire che questa va benissimo. L'altra negativa, con l'umiltà mi fa capricci. La antenna, quando c'è un po' di umiltà oppure, mi fa capricci. Mi abbassa tutto. Bene, avanti Giovanni. Allora siamo a posto adesso, ci sentiamo tutti. Siamo tranquilli, dai. Meglio così. Signor Bacchisio, avanti. Ieri perché non si è entrato? Ieri non c'ero, ero in campagna. Ai banchieri ero in campagna. Due giorni non so perché l'ho acceso. Ma ieri sera l'ho acceso, al solito non c'era neanche un animo, ho fatto un fischio, nulla. Tutti al letargo, a dormire eravate. Sei graziato ai turni. Mi sono evitato a mangiare. E la buona tutte le notti che non riuscire a dormire che ti ha mangiato. E meno male l'hai sentita che ci ho mangiato un ghiccio. Sono digiuno, Graziano. Graziano, ma è vero questo che stai facendo Gio Maria? Allora, infatti sono a dieta. Oggi mi ho mangiato un piatto e mezzo di pasta e ricotta. Mussia, Bonaretta, Ida. Pasta Barilla, quella lumacchimi. Oh yeah! Cosa? Ieri cos'eri, favatta? Ho capito, cosa hai detto? Ieri con la favatta, fave stai mangiando ieri. Ma che fave, bistecche di cavallo e bistecche da 2 centimetri. Altro che favatta, la fava già la mangiamo più in là. Dunque ieri la ringrazio, ieri così, poverino. Oh Giulia, mi vedete a dieta, mi grazia, avanti Giovanni. Mi aspetto 5 minuti, dai. Ok, avanti Luca. Eia, ti ascolto benissimo Marino, non so se mi ricevi meglio tu, No, no, io ti ascolto chiarissimo adesso, senza insulti e senza niente, proprio una mutazione chiara, tipo Giovanni e Graziano. Avanti. Eia, avanti Bacchi. Ok. Marino non so se mi ascolta o no, voi non manete niente. A digiuno sì, grazie, io devo essere a digiuno domani. Domani devo essere a domani notte, non posso mangiare. E la cattiva è fatto. E poi la favata me la faccio appena mi porti le fave tu. E le fave io ce le ho già. E non c'ho il numero di telefono, sai dove ho dato la foto, te l'ho mandato. Visto perché non me l'hai chiesto quando eri qui, te lo lavo. Ma mi sono ricordato, grazie a te. Faccio un capo un buglione. Capito? Già riesco a averlo. Già riesco a averlo, poi te lo faccio vedere. Marino, mi senti? Sì, lo mangiando, sai, mi ti ha chiamato Bacchisio. Maria sta mangiando la colomba, grazie a te. Non lo sapia io, Gio Maria ti n'ha condito. Colomba non niente. Avanti Luca. Eia. No, io poco fa mi sono mangiato la pasta e mi ha fatto mal di pancia. La crema? L'ho bevuta. Luca, con la crema era. Eia, grazie, con la crema. E anche a me l'altro giorno me lo mangiate e mi ha fatto mal di pancia. Ma ha fatto venire 2 cusci. Ah no, non hai capito. Ma è tutto mal di pancia, ce l'ho ancora, fatti la camomilla pure adesso. Sa chi passa, Anche a me l'altro giorno che l'ho mangiata, quella fritella bella, tutta zuccherata, dorata, drente la bella carica di crema. Buona la buona, ma ci sono che ti vuoi sbattere due volte in ufficio. Casino, io queste cose devo stare attento. Mi hanno sconsigliato di mangiarle, però ogni tanto pure a me mazza un ravvino mi la mangio. Ora se fai come faccio io, hai visto, un ogni tanto va a provare se non funziona, vero Bacchi? Non funziona, è così, dice vedere Marino se riesco a arrivarci, perché devo chiedere qualcosa, Marino. Grazie, chiedo a Marino se prima di fare l'intervento l'hanno lasciato a digiuno. Marino ha detto se prima di fare l'intervento eri a digiuno. Sì, a digiuno sì. Io sono partito mercoledì da Sassari per farmi prendermi la stanza tutto quanto con mia moglie. Il giovedì ho mangiato qualcosa la notte, giovedì abbiamo fatto le analisi, poi sono andato via, sono sempre la stanza a Cagliari, e giovedì sera non ho mangiato nulla, zero e poi zero, perché abbiamo parlato venerdì, dunque era digiuno, devi essere sempre asciutto, bello asciutto e a posto. Non devi mangiare nulla domenica sera, lì. Domenica mangiare niente, ma chi? No, domenica sera, sì. Domenica sera posso mangiare. Non posso mangiare la colazione e pranzo, perché l'intervento è alle 2:30. Sì, ma devi mangiare leggero. Ti mangi un brodino o un tè con due fette biscottate. Se devi fare intervento l'indomani, anche se sono le 2. E poi non mangiare uno, ne fai colazione, diviso lui, te lo bevi solo, o il latte o il tè, senza mangiare, abbino quasi nuda. Ma io, scusa, Bacchi, neanche il caffè oggi bevato, figurati. No, ovviamente non fai le colazioni, ho detto, 0.0. Vabbè, con le tacchise un intervento è diverso, è una cosa più leggera. Il mio abbiamo tutto addormentato, la gamba tutto quanto. Dopo che abbiamo fatto l'intervento, verso le 4, ha giubilato, ma giubilato non caffè, doppio caffè. Chi dai Bacchi? Sì, ho sentito, no, io da 2:30. E mi ha detto di stare a digiuno dalla notte. La notte posso mangiare, di domani mattina niente, a pranzo niente. Dunque, andando a scimmi, mi sono truccato in 4. Sì, quando riesci ti mangi qualche cosa. Quando è finito tutto e arrivi a casa ti mangi qualche cosa leggera. Leggera? Ehi, a buone abbadete e fa 1 chilo di pasta asciutta. Anche che glielo dici, ma posso mangiare adesso quando va a casa? Tu chiedi la cosa ti dice. O se la chiedi dice non mangiare, invece che non le dico e mangio. Sì, vabbè, però magari, non lo so poi, se devi fare anestesia non lo so, boh. Anestesia locale solo, Ah, locale, allora puoi mangiare, puoi mangiare, tranquillo. Riprendi, Luca. Bacchi, dove ti vuole operare? La gamba? Una spalla. Ah, ho capito. Vabbè, molto dura questo intervento. Una mezz'oretta, maestro, non di più. Una mezz'oretta. Alle 2:30, alle 3 dovrebbe essere finito. A Cagliari? No, a Sassari. Vabbè, dai. Scusate, se devi fare le prelievi tutto quanto deve essere a digiuno. Già tutto sistemato quello lì, tutto pronto, è pronto a tagliare. Diciamo che è un giramento di scarpe, tutti gli altri la mattina, per chi è abituato, come me, se non mangio la mattina su un muscio, morto veramente, sto male tutto il giorno. Qualche volta è capitato di andare a digiuno, ma come ha fatto le analisi e tutto, io subito a rubare, ma non ho perso tempo, Sì, infatti, bisogna mangiare, ci uno si dà di busta. Se rovescia uno se lo mangia, caspita. Io mai trovo niente, cioè, a pranzo niente, a colazione c'è una cosetta leggera leggera e poi basta. A pranzo buccia, Eva e basta. Lo so. Anch'io, magari se mi avessero operato da prima, secondo me hanno sbagliato il mio numero, hanno sbagliato, ma ci rimette 201 finale, hanno messo 202 perché glielo ho fatto correggere, ma secondo me non l'hanno corretta all'ospedale e non mi hanno mai chiamato. Vabbè, mi sa che mi rimetto di nuovo in moto, stavolta gli faccio casino però, cioè un mese dietro appresso a loro fare visite contro visite e poi non ti chiamano neanche per operarti. Ma voglio fare visite con casino, io devo fare avanti di un elettrocardiogramma. Non c'era posto, l'intervento ce l'ho lunedì. E il corso al CUP mi hanno dato l'appuntamento al 20 di marzo. Allora sono andato e ho fatto appagamento. Appagamento subito, oggi, no domani ce la può fare. Pagendi. Io lo so, Pacchi, funziona così, Pagando, sai tutto subito. Avanti, grazie. Ma a me avevo fatto al braccio sinistro infiltrazioni, lesioni, quel coso, scariche elettriche, sono buttato 3 mesi andando nei terreni. Alla fine era lo stesso il braccio, e mettesselo l'intervento che allora bisogna fare. Se non gli è passato, perché non lo sente? Il mio braccio va di crack, tutti i volti in là, semmi durimi. Ma lasci l'intervento, faccia una cosa, lasci perdere, già me lo tengo così. Mi conviene, perché io il braccio sinistro lo stesso. Dovevo farmi un intervento, il professor Milano dice, gli facciamo 3 buchi e lei è a posto. Ho detto, i buchi li fa lei nel muro, a me i buchi non me ne fai tu. No, io la dico, già me lo tengo un gigante al vento, lascio perdere. Cioè, 3 mesi andando nel Turreno, ogni la sera all'ospedale civile, su all'ultimo piano. Prima di chi di fare quelle scariche di elettrico, cosa era? Mi buniani 2 spugnette umide, questo elettrode mi scaricava degli impulsi elettrici. Non mi è battuta. E prima di quello ho fatto le iniezioni, le infiltrazioni, peggio di prima lo braccio, Ida. Oh, e vabbè, alla fine mi ha detto, se è lo stesso allora bisogna fare l'intervento. Sì, fermo così, lasciamo perdere, non me ne faccio l'intervento, arrivederci, è meglio che andato. Così è. Così. Avanti, signor Marino. Marino è che penna Pandoro. Andiamo a Pandoro il marino, che frequenza è a forza di Pandoro? Ma rimani a Luca, riprendi. Sì, io sono qua su Facebook dove vendono un po' di tutto, sta dando un'occhiata, c'è qualcosa che mi interessa, ma mi sa che non mi interessa nulla. Ah, quello, un po' di motorini ci sono, anche il Ciao, venire alle 3. A 500 euro l'uno, il motorino, e altri motorini anche, già c'era un po' di roba, ma guardato, quello lì stai guardando? No, sono su Marketplace. Me l'ho guardato anch'io quello Marketplace, stasera, e un po' di tutto c'era. Sì, è fatto. Sì, hanno un'occhiata, c'è anche un monopattino a motore a scoppio, quelli che ha il coso, quello che ha, come si chiama, che deve rimanere in piedi praticamente, dai, è il manubrio lungo. Ah, l'avevo visto, due ragazze alle cunce. E con quello lì, deve essere stavano facendo pubblicità, che erano abituati brizzisi con questa specie di manopattino sul marciapiede, stavano camminando. Allora so così, era elettrico a cosa idani. La batteria sono, grazie, dovete caricare e così via. Sono batteria. spateria, infatti erano silenziosi e silenziosi. Due ragazze vestite uguali, due cannucce in minigonna, e non so che pubblicità stavano facendo. Vedevo anch'io al centro, al sacco, c'è il solito. C'era mia figlia, però mia figlia c'era senza mauti, no? Si mette sopra, c'è il pulsante, c'è un pulsante che cammina, capisci? Ma chi c'è l'occhio? È meglio che l'umano bianco che ti mantieni. Secondo me ti dai più equilibrio, boh. Se dipende, perché c'è una genere che cammina bene così, però io non ho meglio con il manubio. Se manubio, se non c'hai un bel equilibrio, ti ammazzi. Esatto. Se non è una cosa, Luca. Luca, che te ne dovresti fare tu? La bile. Dove, alla? Bile. Oh, io sì, la bile, via. Mi attenga, tu fai di conto, io per intervento a Nagelo, quasi 5 anni ho perso a loro. Ogni tanto andavo, mi facevo fare visite, meglio, le riviste, appena me la chiamo, 5 anni, figurati. Poi il mio collega l'ha fatto a Tempio, ma l'inizio di Tempio mi ha chiamato, ho chiamato il primario, che c'era una borsa di Sassari, ho pagato 100 euro, mi ha fatto una signora visita a Sassari, in giro una settimana mi hanno chiamato a Tempio, figurati, in giro una settimana, e ho fatto l'intervento a Tempio. Dopo ho fatto l'intervento, dopo 2 mesi mi hanno chiamato a Sassari, figurati. È uno schifo, la sanità qua è uno schifo. E così per il ginocchio. Per il ginocchio c'è il padre di un amico di mio nipote che è mesi in attesa, figurati, io sono andato su, ho fatto la visita sulla pagamento. Vabbè, diciamo che questa poi tramite mia figlia che conosceva una persona, mi ha messo in mezzo e in giro un mese mi ha fatto intervento, capito? Sì, beh certo. Comunque se paghi hai, però se lo paghi. Sì, se paghi hai tutto, poi i soldi hanno tutto, capito? È tutto così. È una legge sballata, porca miseria. Con i soldi il posto c'è. Senza soldi, aspetta cavallo mio. Tu ce ne sa che cosa, Graziano? Io il primo intervento che ho fatto agli occhi a tutti e due, all'età di 23 anni, la mutua non lo pagava tutto, non era mutuabile, cioè mutuabile la metà della cifra che dovevo pagare. E avevo pagato 1.500.000 lire per un occhio e 500.000 lire per l'altro occhio. Poi la differenza l'ha messa la mutua quando mi hanno operato agli occhi, che mi hanno messo i cristallini artificiali, perché qui non ce n'erano e allora li hanno fatti arrivare dalla Francia. E se uno non c'ha soldi diventa rimane cieco, così è grazie. Se non pagavi non me ne vazia, dottor Piccinini, di intervento. E purtroppo la gente non dubaga e sono cucciato in cura. Un anno va un uci e un anno va l'altro. Le prime 3-4 visite me le ha fatte lì al policlinico sassarese. Il resto delle visite dopo 5 anni, in 5 anni che ero sempre in cura, andavo via l'Italia allo studio di dottor Piccinini a farmi laser, eccetera, eccetera. E chi mi pagava tutti i gusti, gli andasia 120, 150, da lì non si muoveva. Di narese mi l'hanno mangiato. Non voleva, no, sono magna, so. Poi sono furbi, lavoro in ospedale, molte volte si dicono che l'apparecchio dell'ospedale non funziona, ma funziona quello di casa sua, quello dell'ufficio suo. Sono furbi, ti do fare i soldi, avanti, ma chi? Tu ti dici che è mutuabile fino a un certo periodo, dopodiché devi sborsare di là, tutti valli a mangiare e molte visite me le ha fatte anche senza la mia ricevuta. Hai compreso? Si la pumbuccia a calare, buriti, buriti, sedina. C'è il nero, e così fanno i soldi, capito? No, stavo cazzato, dico che non è mutuabile, dunque devi pagare in tasca. Sono soldi, avanti Luca. Infatti. Da meglio non ripetiti. Allora io ho chiamato per prendere un appuntamento e ci volevo un po' di tempo per fare la visita agli occhi, no? Sì, troppo tempo. E ha chiamato la mia ragazza lì al... come si chiama mai? Al policlinico, subito me l'hanno preso lui, subito. Dopo, quant'è? Dopo una settimana mi sa? Ah, dopo 2 o 3 giorni, ho fatto la visita. Dipende mio Luca, dipende che ti trovi, capito? Dipende, è la fortuna, capito? È la fortuna, per esempio una cazzata. Io ho 5 anni per il naso a tempo passato. E Bacchisa invece l'ha fatto veloce. Bacchisa l'ha fatto veloce. A me mi hanno dato il tasso in cane, in attesa. Andavo, mi facevano fare le analisi del sangue, la lastra e la vita al cuore. Lei in attesa, e questo ogni giorno poi la chiamiamo, e lascia, si incanni. Ma chi se io penso di giorno mezzo era, ha fatto tutto, vero Bacchi? Io ho fatto la richiesta una settimana prima, subito mi hanno chiamato. Solo che poi il giorno che mi hanno ricoverato mi è venuta la febbre e mi hanno rimandato a casa. Indomani mi hanno andato a casa, sono stato altri 15 giorni a casa a riposo, poi sono andato e me l'hanno fatta, senza 3 giri. Solo che adesso il controllo, devo fare il controllo dopo di un mese, mi sembra 2 mesi, devo fare un controllo. Nulla da fare, non c'è posta, non sono più andato, sono andato in Olamara. Così, Candè, chissà che la mia figliola ha fatto, non so cosa ha fatto, una visita insomma, 180 euro. Tutto a pagamento, tutto a cash, grazie, tutto cash, se non ne hai devi morire, capito? Adesso ieri stava sempre telefonando, prendendo un appuntamento per fare una paronamica a bocca. Non so quanto gli hanno sparato, però la deve fare, ha preso l'appuntamento. È sempre di pure di là. A chi lì sta l'attesa? Cos'è quando l'hanno detto? Alla fine del 2018, a dicembre. È uno schifo, guarda. È uno schifo. Boh, non lo so, io avanti, Luca. Casino, boh. Ma sai cosa è? Tipo, se vai al pronto soccorso, che magari è un problema, a me è successo, no? Poi mi è venuto un mal di pancia terribile, che non riuscivo manco a stare in nessuna posizione. Sono arrivato lì, ho dovuto aspettare. Sarà la gente che c'era. Ma siccome il tuo codice non è urgente, devi aspettare. Se tu mi hai su un muretto di nonghi, e ho aspettato, e come sto aspettato? Non sanno cosa c'è, la persona ci rimane, capito? Magari siamo andati in codice bianco, in verde, che sono proprio gli ultimi codici, e non vengono in bagno, neanche al rosso. Mi sto spostando 2 minuti, avanti, grazie, chi mi ha chiamato, arrivo subito. Sì, a chi non lo sa che c'è, ho pronto soccorso, così. Secondo cosa vai, ti boni, chissà, all'ingresso, il codice bianco, la gente buono pensamento all'indomani, e ci anda a protestarti, dici. Prima di lei ci sono i codici rossi e gialli. Se ti buoni il codice bianco, ti conviene arrigarti la tenda e piazzarla ai ghibi. I ghibi mi fate così. No, io 3 anni fa, ero il magistrato condito, proprio spaccato, spopolato era. E sono stato al pronto soccorso. Quando sono arrivato, si a sangue a Canali. E lì c'è rosso, mi dà un pezzo di carta, mi borricaggia e mi bruttava in terra, mi passa l'infermiera e dice lì sta sporcando, se mi dia qualcosa che per il coso, per i pochetti, i cuciti, vedi su di qui va, aspetti, prima di lei ci sono i ricoveri urgenti, e a lui cosa è, no, se lei può fermarsi, quelli che vengono da fuori. È passato più di 3 ore, è passato, mi hanno messo 6 punti di struttura. A me l'ultima volta mi sale zaccato l'ossigeno, mi sale cotto una camera e mi sono formato, pensamente all'indomani a Manzano, a Risema anche un quarto, mi sale stato sopra a ricoverarmi, ecco Pris, cure di un orecchio e cure di un orecchio mi sono formato, mi ha fatto una flebo, pari di un orecchio, manco ribello mi ha cuccato. Non gliene fotte niente, non hai compreso. Ma da tappuccia nei chivi, se campi in campo si muori muori, che t'arranci. Allora, capi, ma ti vuoi tu niente, tutti scalpitati, tutti troncati, ma la dimmi, peggio di me, ma mille volte peggio di me, pure se la dolore, già me la guantavo. Ma tu sei il giorno che c'ero io lì, c'era Pagliari, era passato un treno in Nanto, anche sul tipo, tutto abbeso, tutto sangurone, arrivavia io lui. E chi ci dirà la stata da poi di me, anche prima di la stata da me, anche ce l'hai la gattina, poveraccio. E non puoi te ne faccia nessuno, chi mi appoggia, a mutureggiare sempre. Marino, sei rientrato? Sì, ne quello con Ciuccio. Avanti, Luca. Sì, aia. Mi sta aspettando che si ripete il bagno, così è pure io. E poi, boh, se a casa non niente, non si fa... non si esce. Si sta a casa, boh. E... qua Marino ci avete due bagni. E cosa devo fare? Ah, perché uno c'è la faccia e nell'altro c'è la doccia. Cioè, è vero. Beh, ragazzi, io vi saluto, va, le 8:15 sono. Tanto mi devo fare l'insulina, misura, eccetera, eccetera. Ciao, sentiamo a domani, se coincide. Ciao, Battista, ciao, Luca, saluta mia Marina, Gian Maria, se rimanete ancora, quando rientrano. E salutone chi è in ascolto. Ciao, vai, Bacchi, rilanciate, ciao, ciao. Ciao Graziano, buona serata, saluta la signora e buona insulina, buona cena, buoni sogni d'oro. Ci sentiamo domani se tutto coincide bene. Luca vai. Ciao Graziano, dai. Maria ricambia, salutami la Paoletta, buona cena e buon tutto, alle prossime, ciao. Ciao, ricambiate i saluti, sta facendo cruciferma in camera da letto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Marino, ci sei? Come dici a me, adesso farla smettere di fare il cruciverba e fargli la cocco, come va? Allora, oggi mi cucirà la bocca. Hai visto? Vedi a me, vai, vai. Ah, oh, ma chi? Grazie, ormai, non la quasi più, no? Sei concentrata, non ci vuole disturbata. Allora, mi pare, anch'io sono costretto all'orario. A ingoiare, capito? Arrivato a quell'ora devo prendere pastiglie, non devo usare né anticipare né devo posticipare, sempre a quell'ora giusta. Bene, Luca, ti saluto, grazie della compagnia, della chiacchierata che abbiamo fatto, saluta il correa familiare e se tutto ci coincide ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte da Bacchizio e buonanotte anche agli ascoltoni che sono su questo canale. Ciao Bacchi, tutto contraccambiato, dai, buona cena, buon tutto. Saluta Correa, dai, anch'io chiudo. A domani se Dio vuole, dai. Ciao ciao, ciao anche a Gio Maria e a Marino, ciao. Allora, un attimo ricordo io, salutiamo prima a Graziano, ciao Graziano, ben sentito, salutiamo la signora, ci vediamo domani. Ciao Luca, ciao anche la Chiesa, anch'io faccio quello di là, ma con poi ascolto e ci sta. Ok, ci vediamo domani, ciao a tutti. Ciao ciao, ciao Mari, ciao. Ciao Bacchi, a domani, ciao. Chi è? Il boia. Oi, uscia poco. Beh, cosa stai facendo con questo freddo? Con il gatto. Con il gatto, sì. Ehi, no, io no. Sono in cameretta. Cameretta, sì. Ehi, mi stavo sistemando il contatto di un VHF che devo ripararmi, mio. Lo stavo costruendo. Ma qual è quello che ti ha dato quella persona là? Ehia, quei due anzi, no uno. Uno c'ha l'attacco della batteria che l'ha staccato, adesso glielo sto costruendo e domani glielo salto. Vabbè, e va bene. Cava, cava. Ah, sarei freddo stasera. Già lo so. Non ne so qualcosa. Io che tu viaggi in macchina, il discorso cambia. Vabbè, domani già mi riscaldo, domani mattina. Domani già ti metti in macchina, ti accendi il, come si chiama, il riscaldamento, poi ti scaldi. No, devo andare al Ghero a smontare un chiosco. Ah? Sì, smontare un chiosco, voglio che ti riscaldi. A smontare questo chiosco al Ghero, hai capito? Dunque, adesso vediamo, devo partire alle 6:30. Cosa ho fatto in legna? Tutto in legno. La roba, adesso vediamo cosa c'è da fare domani, vediamo un po'. Dice, ti pago la giornata. Voglio vedere, se non me la paghi la giornata, voglio vedere. Ehi, giornata, non ti basterà una giornata per smontare tutto il chiosco, me? Tra togliere i frigoriferi, tutto quello che c'è dentro, allevamenti, sei tranquillo che ti passa tutto il giorno, quindi sarà anche per lunedì, ne hai. Adesso vediamo un po' cosa c'è da fare. No, lunedì, ho detto, io lunedì non posso perché sono impegnato, dunque se lo facciamo domenica, se no ti chiami altre persone. Hai fatto bene, ma intanto non ce la fai, cioè il chiosco c'è roba dentro, a meno che non l'abbia già svuotato, se l'ha già svuotato gli è una cazzata, prendi martello, mazzetta e ne togli tutte le tavole, pezzo per pezzo, prima il tetto, poi già si smonta subito. E siamo 5 persone. E a voi allora, già ce l'ha fatta. I 2 o 3 ne tolgono la roba da dentro, la caricano in qualche moto carrozzella, non so, furgone, frigoriferi, quello che c'è, e poi la legna la conserverà, la metterà dentro qualche cosa e sistemerà il tutto. Noi dobbiamo caricare nel furgone portando su a San Ciplicio e dove c'è il campannone, dunque la mettiamo lì. Ah, ho capito, quindi in pratica smuota il cosco per lasciare l'anidride vuoto, poi prende e lo ripiazza la prossima estate. Ho capito, perché devono dare i permessi, no? Se lo smuota lui, intanto glielo buttano giù le cose, già ho capito. Quindi finché non gli danno il permesso deve smontare i chioschi. Adesso vediamo. È tutto a posto? Ehi, abbastanza. Però a casa io sono neanche uscito, c'è un freddo, grazie. Anche poi stamattina sono uscito a prendere sigarette e basta. Dove gliele hai prese le sigarette? Al rifornitore sono andato alle 1:30. Ah, aperto era? E chiude alle 3:30, dopo che pulisce. Vabbè. Cosa vuoi fare? Antonio, bisogna arrangiarci. Sì, ricordate che hai fatto quella, che domani mattina ti fai meno quei 25 euro. Meglio di niente sono, se ti dà. Sì, anche se me ne dà 20, cazzo, non va bene pure. Sì, se sono 25 è meglio, perché fino alle 5, dopodiché alle 5 pigli più te ne vai, mica devi stare fino alle 8:30 di sera, no, a prendere poco lui. Se c'è un'altra cosa da fare, si arrangiano gli altri. Vabbè, della volta. Io già gli sto facendo il favore di andare e aiutare a loro. Cazzo, almeno la giornata me la vuoi pagare, non ho capito. Mi vuoi dare 30 euro? 30 euro me ne piglio, cazzo non sei. E intanto il chiosco sarà tutto avvittato, ci vorrà l'avvittatore, quindi fate in fretta. Adesso vediamo, voglio vedere con che condizioni è e cosa abbiamo a fare. Sì, sarà 2 giorni ci metteranno, io penso di sì, penso che lunedì o martedì massimo avrei finito. Per smontarlo, poi se vai a smontare tutti gli altri, questo non lo so. Non lo so, vediamo. Deve regolarizzare il coso comune in pratica, il contratto. Deve farli tutti quanti i permessi per la roba là, per poter piazzare il prossimo anno, dai. Beh, quello sì, deve farlo, ma di solito mi pare che gli davano 30 anni, 20 anni i permessi. Anzi, stasera che non stavano a 9 euro spinti in Viale Palotto, una passata di grani nel carcere, allucinante. E stamattina stava alle 2:30, stava nevicando, fatto quella pioggia mista a neve, mi ha fatto perdere una bella mezz'oretta. Dice che a prove Giancarlo mi ha detto, dice, che stava nevicando. Loare, tutto lì, quella zona là, la Campera, tutta quella zona lì. Domani meno male ci ha segnato in una bella giornata, ma quanto sembra, non piove, non c'è vento. Poi dice, vabbè, la giornata sarà vigila, che sarà vigila. Ci abbiamo, mi sembra, 4 gradi domani, quindi figurati tu. A tempo c'è un grado solo. Lo so. Meno cosa? Analogia, cioè meno 2. E guardati, non esce Lino. Ora fate un giro qui. Lì all'analogia vanno tutti a cosa? A prendere l'acqua vitte. Acqua vitte e tutto quanto. Per scaldare, ci vuole l'acqua vitte, misto, vinello. Oh yeah, per carità. Per carità perca. C'è tu che si vuole in braccio tutto il giorno. Che asillo che c'ho. Lunedì ricordati di fare quella cosa, Antonio. Lunedì, martedì devo andare, martedì mattina. Martedì mattina ricordati di fare quella cosa perché è molto importante. Devo fare anche quello di Giampiero, devo fare. Mi hanno telefonato ieri mattina. Capito? Devo fare il foglio ISA anche a lui, consegnarlo, devono fare i conteggi per sapere quanto deve dare il comune, hai capito? Fino a febbraio i soldi della regione non sono ancora arrivati per pagare il rientro a casa, quindi a fine febbraio, a quanto sembra, è coperto, dopodiché non si sa. E quell'altra cosa invece, per noi non c'è sa nulla? Non lo so, no. Non te lo so dire. Vedo di telefonargli adesso lunedì mattina e vediamo cosa mi dice. Perché se non ci sono per rientrare a casa, figurati se ci sono per noi. Ma no, a me mi ha detto, dice, che quello della banca, quando sono andato a chiedere, ha detto che la pagava in la prossima settimana, lunedì o martedì. Me lo auguro se ci sono i soldi, però ricordati che non ci siamo solo noi due, no? Ci sono più di 5.000 persone da pagare, quindi sarà la prima tranche, senz'altro, hai capito, dei soldi regionali, che verseranno e daranno a quelli che hanno famiglia e cose del genere, poi toccherà a noi, come l'altra volta. Ho capito. Io, martedì ci provo ad andare in banca, poi vediamo se ci sono, è buono, se no aspetto. Dovrei aspettare il messaggio, va bene. Attento, comunque te lo mandano prima il messaggio, per quello già non c'è problema. Magari lunedì mattina ti arriva il messaggio per andarci martedì. Vai, evitivi, non c'è problema. Tanto ti danno 2 mesi assieme, quindi. Ma sei sicuro che ci danno 2 mesi assieme? Per fatto ti devo dare 2 mesi assieme, perché se ti ricordi bene, anche a me mi hanno dato 4 tutti assieme, non me l'hanno mica dato il 15, me l'hanno dato dopo il 20, mi pare che era. Mi aveva fatto il messaggio, mi ha già scritto di andare a ritirare, quindi figurati tu. Quindi penso che ti diano gennaio, febbraio, dopodiché si vedrà, ti manderanno qualche altro messaggio per il rinnovo, oppure non lo so, se ti chiederanno il foglio ISE nuovo. Non lo so, vediamo cosa ne esce martedì, vediamo un po'. Hai capito? Io mi auguro che ti diano tutti e 2 mesi assieme, almeno sei tranquillo. Almeno ti sistemi con la macchina e non esci a piedi. Sì, devo pagare, fare la cessione del cambio di libretto della Twingo. Poi dopo la rotomazione dico la casa e buttarcela. Sì, piano piano, Giuseppe, dopo ti dico. Non è che tutte le cose puoi fare subito, no? Non dipende da noi. Poi ci sono le elezioni a marzo, quindi i soldi girano prima, hai capito? Le questioni elettorali. Ho capito. Oh, yeah. Tanto, scherzando, tra 80 euro più 30 euro di versamenti ci escono 120 euro. E adesso ho già sospese, io devo pagare 160 di luce, figurati. Più 300 di condominio devo darne ancora, me ne mancano gli altri 300 euro se appena me li danno, e quello devo fare, mettermelo da parte per il coso, per fare questo foglio famoso per la divisione, capito? Che va fatto entro un anno, perché è passato quasi un anno e due mesi. Ho capito. E base sono 1200 euro, la successione adesso non lo so, devo informarmi. Se si può fare la vatta, la faccio la vatta, se no se la pigliano in culo. E cosa vuoi fare? L'ho fatta. Una volta che è fatta la successione, poi i conteggi sono diversi. Capito? Non sono più un terzo, ma sono due sesti toccano a me, quindi cambia tutto. Non so. Perché la cessione delle cose dell'eredità. E poi com'è la questione? Fate una volta quella, poi cosa dovete fare? Una volta fatta la successione, il comune stesso mette un giudice di fare divisioni in parti uguali, siamo in tre, capito? A meno che non entri Berlusconi, la successione non si paga più e quindi non c'è niente da pagare. È tutto da vedere dopo a marzo cosa decideranno di fare. Se bisogna pagare l'IMU, eccetera, eccetera, della prima casa. Ho capito. Ma la divisione dei beni l'avete già fatta voi, no? No, ancora non dobbiamo farla. Adesso appena la facciamo so quanto mi tocca a me e quanto tocca a Giovanna, quanto tocca a Giampiero. Ho capito. Speriamo che ti tocchi almeno 5.000 euro, ti tocchi a te della parte. Non mi tocca 5.000 euro, di più me ne toccano. Bisogna fare la divisione, io ho l'appartamento più piccolo, quindi giù è l'appartamento più grande, quindi mi deve dare il resto, capito? Però ho fatta un'altra volta la successione, non è che l'ho fatta. Nel caso dovesse succedere che Giampiero manchi, ci vuole un'altra successione, hai capito? L'ultima. Non so. E poi va diviso per due. Esatto, sì. L'importanza è che di campare 100 anni tuo fratello, poi per il resto, che è cercato fare la disgrazia che ti lascia prima, tocca pagare anche il funerale. No, quello è già pagato, quello è tutto a posto, meno male. Antonè, mai dire mai. Già pagato, abbiamo già fatto tutto con Angelo, capito? 3.000 euro mi è costato, 3.000 e passa. La tumulazione, l'oculo e la para. No, già più, ci vuole cremato, quindi ci va aperto la tumulazione e basta, tutto lì. E messa la cassettina dentro. Ma si vuole cremato. E io, così ha detto e così ho fatto. Anzi, così l'ho fatto scrivere, come voleva lui. Proprio cazzo da. Io non ce l'avrei coraggio, non ce l'avrei coraggio di farmi cremare. Tanto quando sei morto, mica te ne accorgi quando bruci. Lo so, ma cazzo. Io spero il più tardi possibile. Quello sì, mica lo cremano qui, no? A Olbia lo cremano. Pure a Olbia viene portato a Sassari. È tumulato dentro lì. E basta. Anche perché di là non c'è posto. Sono già 5 persone che ci sono dentro. Ma dentro la tomba di tua madre, di tuoi genitori. E io. E chi c'è? C'è tua madre, il tuo padre e poi. E le due mie zie. Ah, La sorella di tuo padre? No, sono le zie di mia madre. Non ho capito. E vabbè, sono... E cosa vuoi fare, per carità? Allora, ma come ne m'accomodi di più, che... Via. Mi pare che faccio una cosa a me. Chiudo quella casa in campagna e me la faccio tipo cosa come luculo, almeno risparmio. Lo vengo di tu. Ci vuole poco a chiuderlo, me. Non ci vuole niente. A voi c'è spazio lì. Vabbè, fa un'altra cosa lì. Per mettere tipo agenzia funebre. A mettere le bare lì dentro e tu per pagare l'affitto. In quella casa sono 90 metri quadri, a voglia che ce ne stanno casse dentro, ce ne stanno due in bagno, una in fila all'altra, sotto, due altre sopra e sono quattro, poi ce n'è l'altra camera, ce ne stanno sei, e a voglia. Se l'affitti e puoi usare a tipo... cosa, no? Agenzia funebre. Ah, tipo cappella di cimitero voglio fare, hai capito? Così almeno non ti tocca manco il terreno. È vero. L'unica cosa, se dovesse arrivare qualche passata di acqua, si allaga tutto. Ti vedono come succede come a Sorso, vedono, le casse sono andate via per fino alla cosa, per Tamona. Allucinante. Oioioi, per carità. Allora, bubu. Vero Tommy, bravo è Tommy, hai detto che c'è un cane di razza, amico, cosa ti credi? E lui quello lo fai sposare, gli cerchi la cagnetta e lo fai sposare, hai capito? E adesso gliela compro una cagnetta, così almeno sta tutti i giorni facendo ciucucciù e almeno mi caga più, anzi a me mi segheggia pure. Una volta che nascono i figli, da voi voglio volere. Cinque cani che appaiono di notte, che cominciano mia, mia, mia. Addio condominio, io. Già ne do poco più già qua. Allucinante. Verino, è bravo, è vero che sei bravo. Sei cane di Papino, sei tu. Tutti ti trattano male, anche del Giuseppe quando non c'è più venuto a trovarti. E la prossima volta che viene ti compra il cioccolato, ti comprami. Io sei bravo, tu sei vero, Tommy, Oh, yeah. Poverino, lui Tommy, lui sì che ci capisce. Lui sì che i camminevi. Ti stai guardando la televisione? Nulla, ho spento. Stavo acceso, stavo guardando, ma ci sono cagate a quest'ora. Non c'è niente di bello. E sto guardando quel programma di cose. Di Maria Filippi, c'è posta per te. Ah, quello te lo fai qui Italia, c'è posta per te. Sì, c'è qui Italia che per te. Allora, c'è posta per te, te lo fai qui Italia, te lo fa. Oi. Ma già accenato hai? Eia. Allora ti sei fatto una pizza. La pizza al trancio, quella, una margarita, di quelle rettangolari di Rospi, poi ci ho messo il prosciutto sopra, un po' di coso, di prosciutto cotto, crudo, e coppa, e basta, e un po' di formaggio, a parte le acciughe, vabbè. Adesso ti c'è fatta la quattro stagioni. Sì, la quattro coglioni ho fatto perché cazzo ci ho mischiato di tutto. Ma è uscita buona, Sì che è uscita buona. Beh, se la controlli subito col fornetto la fai buona, se no se poco sbagli diventa subito carbone, capito? Devi guardarla, controllarla, in realtà toccarla con la forchetta. Ho capito. E cosa? Simone l'ha mangiato? La stessa cosa, una pizza in due abbiamo fatto. Invece io mi sono mangiato un'insalata di coso, di carciofi. Ah, già sono buoni, c'è ferro lì. Lo so, poi ci ho messo un ovviuste di quelli lunghi e un paio di pezzi di cipolla. Gli altri viste sono pesanti, mica la cipolla, mamma mia. E lo so, ma vabbè, è cosa cazzo devo fare. Potete metterci qualche altra cosa. Proprio se ci mette il viso, ci mette la cipolla, perché non è che sia molto leggero a digerire. Sì, l'ho fatta un po' soffriggere e poi ce l'ho messo in mezzo ai cartoni. Oh, io ho visto cipolla, non riesco neanche a digerirlo. Figurati. Ma con la mortadella riesco più a mangiare. Una volta mangiavo i panini con la mortadella, adesso manco quella riesco più a digerire. Come mai? Lo stomaco sta per, non lo so, non ce la fa più a digerire roba così. Quando sei giovane, quando ero giovane mangiavo anche 10 panini la mattina, mi comprati lì dal panificio. Ma col pane arrivavo a casa. Ne mangiavo 5-6 panini io, e poi pranzavo pure. Allucinante. E quando i panini sono caldi, a voglia se li mangi. Oi. O sono bruschette che mangiavo un periodo. Bruschette con lo, di tutto sopra. Oi. Adesso li metto il nastro isolante al cane. Aspetta, nel musetto non vuole. No? No, non volevo fare come il coccodrillo, mettere il nastro isolante nel muso, al retrovirò. Poverino. Musica è andata. Mola l'osso, che è mio questo, mola l'osso. Non voleva più restituirmelo. E che cosa? Nastro isolante, gliel'ho messo in bocca, non voleva più, stava stringendo. Ah. Oi. Dagli un cioccolatino a Brescia, te lo mangia. Sì, ne ho comprato un pacco intero, la settimana scorsa, ma la metà me ne sono rimasti. Dagliene uno e sei a posto. Si è mangiato quelle caramelle al cioccolato, quelle di colore rosa. Infatti ha cagato rosa, sembrava cagato gelato. Già le piace già il cioccolato, voglia. Caramella, la menta, a me. Cingomme no però. Cingomme, sì. Se lei che c'ha cingomme alla menta, già mangia anche quelle. Cosa vuoi? No, non salire su. Siedi giù. E Marco, sei sentito là? Chi? Marco. Marco si è sentito un paio d'ore fa. Era in bagno, stava modulando là dentro al bagno, sopra il cesso. Stava modulando? Santiago 7 arrivava a me, dal primo bagno mi ha detto. Allucinante. E ti metti in stazione lì direttamente. Io una volta, in questo vita di Valle Vera, ci avevo messo il televisore in bagno. Quando mi servo del cesso mi guardavo la TV. Lo prendevi bene. A voglia, allora non c'era il discorso del ricevitore digitale terrestre, si guardava in analogico. E ho messo la radio con quella TV e si vedeva benissimo, si vedeva. Poi ci avevo buttata dopo, quando è nato il digitale terrestre ci ho buttato tutto, cosa me ne facevo. L'unico che mi sono tenuto è il televisore, quello piccolino, grigio, per fare impianti satellitari, aggancio al ricevitore satellitare, lo aggancio e così vedo se si quando si vede la parabola, quando si vede qualche problema, cosa c'è? La scena questa. Tanto per fare le parabole usavo quello, per l'autobirdi andava bene anche per l'asta, poi per il resto ci voleva un altro ricevitore. L'altra sera, l'altra mattina era, quando ho aperto io il circolo, c'era Pietro, no? Il servizio bene ci vede, sì? Ci vede benissimo, avete fatto un buon lavoro, ha detto, quando dai la dai alla gente incompetente che non sa fare niente, è per quello che non si vedeva nulla. Io l'ho visto quel giorno che è aperto tu, è passato nella farmacia qua vicino a casa mia, dice che ci abita la sorella via Ugo la Malfa, e doveva andare a verificare il coso, il terrazzino mi ha detto. Io ho capito. Fate l'aiuto, cosa ci fai qua da queste parti? Dice, stanno da mia figlia, mi ha detto. Capita via con l'Alfa. Io poi invece stavo entrando a casa, dopodiché sono passato lì al circolo. Ho capito. Di solito chiama a Vittorio per fare qualche lavoro in muratura, capito? No, solo attingere il coso e basta. Il muro del terrazzino mi ha detto che era. Poi ho pensato, a me non è che mi piace tanto. Già è troppo che mi vedisce la camera mia. Adesso è tutto incasinato, non posso beneficiare niente. Quando c'è un po' di tempo, sposto tutto al centro e vernicio la camera mia, vernicio. Di giallo. Di giallo? E spugnata la faccia, no? Come ha fatto tuo fratello nel locale. Ho capito. La faccio piano la faccio. Però devo togliere la roba dai fianchi e mettercela al centro. Faccio pezzo a pezzo. Quest'estate e così mi sono più tranquillo. Ma quello là, nel condominio, vabbè, come va là, il garage? Tutto a posto. Mi avevo già dato il garage. E ci ha messo la serratura nuova. E lui ha traslocato la settimana scorsa, E lui adesso per un po' non paghi il condominio. Tanto l'ha buttato lì, cioè, questo garage, non ne facevo niente. C'era un po' di. C'era solo modesta e basta. Sono tutto solo quello che mi serve. E il resto ce l'ho tutto buttato. Fatto bene. L'unica cosa che mi è rimasta sono quelle segreterie digitali e basta. Quelle me la lascio di riserva qua. Perché sono digitali, capito? Non c'è bisogno di nastro né di nulla. Sono per casa. Almeno nel caso non ci sono, rispondo direttamente alla segreteria e poi vado e richiamo. Tanto che mi rimetto il telefono fisso, la utilizzo io. Capito. Strano che questa non ci sia nessuno. Tutti i voti sono già, sono 9, quanto sono 9 e mezzo. Quella persona ha sentito là? Chi? Mario. No, non l'ho sentito ancora. Mi ha telefonato, mi sembra verso mezzogiorno, solo che c'avevo il telefono Simona. E mi ha chiuso la sonoria, non se n'è accorta con le dita. Mi sta solamente la chiamata verso le 4. Ho capito. Poi io confetto che c'era, dove vai? Sono uscito in lucco, solo a pigliare lì. Le sigarette. Cazzo, stavo congelando, un freddo. Ti credo. Dove andare con questo freddo? Ha pigliato un malanno. Non esiste, oggi ci sono 4 gradi stanotte. Solo se sei in macchina va bene, ma uscire così a piedi o in tram, o che c'è vento o voi. Voi, lascia perdere ancora. Certo che quando siamo andati al cimitero stasera alle 4, certo, mi stavo cagando dal freddo. E appunto per quello. Conviene che basta aspettare domani, dopodomani, tanto dopodomani c'è il sole, quindi migliora. Capito? Vabbè. No, ma siamo andati e non c'era problema, no. Non c'era problema che, capito? Siamo andati, abbiamo pulito la tomba e tutto quanto e anzi prima siamo andati a fare il dovere a mia madre, con mia madre, e poi siamo andati al cimitero, poi siamo passati allo spin. E fatto vedere, c'era di vicino allo spin. Quindi a voglia. Era attaccato. E a me ti si è fatto un po' di spesa. Serve sempre. 50 euro di spesa. Da una cosa data ti farà una settimana, due settimane, non di più, dipende da come da quello che compri anche. No, ha preso la carta igienica, lo scotch e poi la cosa, la, come si dice, la quella pasta fresca per fare la pasta a forno e tutto quanto, hai capito? Ah, allora già hai fatto bene. La voglia. L'altra volta ho fatto 50 euro di spesa, mi sono preso il pollo, la carne, le patatine fritte, e verdura. Mi sono speso quasi 50 euro, 48 euro qualcosa, 2 euro mi erano rimasti. E noi 40, no, quasi, quasi 50 euro, 40, 47 qualcosa. E aumentati sono anche loro, non è che siano diminuiti. Adesso stanno facendo poche volte a 1 euro la roba. Capito? Chi sta facendo di più è il coso, città mercato tutto a 1 euro. A volte conviene, a volte no nemmeno. Poi lascia perdere città mercato, che città mercato vai là a 1 euro la roba, cazzo, e non ne trovi mai, hai capito? O manca quello o manca quell'altro. Ma che cazzo, lasciamo perdere. No, sono andato un giorno, vabbè. C'era un po' di tutto, c'era. Però non ho preso niente. L'unica cosa che ho preso sono le sardine. Prese in scatola, quella è già 1,70 euro avevo pagato, e poi me le ho cucinate dopo 2-3 giorni, le ho fatte in verde con i pomodori, già andava bene come prezzo. Sì, già vanno bene, però se cazzo va a prendere tutte quante coglionate, cazzo, a 1 euro, cazzo, che di bigiotteria, quella roba là, i fazzoletti, lo scottes e ballevaria, va, su quella roba lì conviene, però per il resto no. Ah, per quella roba lì conviene, sì. Il resto, vabbè, deve fare un giro, il tonno per pagare 1 euro, quello unico, e altre cose così. Devi girarti tutto città mercato, il fatto che poi esci di testa, poi devi andare alle casse, è tutto pieno, e vedi come lavorano lente le cassiere. Ho capito. E chi è? Avanti. Ciao Gianni, come stai? Bene, tutto a posto. Giuseppe Leoncino c'è. Dovessi sentirlo. Gianni. Sì, Gianni. Abita qua vicino, già lo conosci. Ma Carbonazzi, Antonetti. Ah, per fare i segni, sì, ecco perché non lo senti. Io lo sento, vabbè, io lo sento con l'antenna esterna, già. È già nel sole, Giuseppe. Salutami la parte mia, io non riesco a copiarlo. Ah, tu salutati Gianni, ha detto che lui non riesce a sentirti. Vabbè, anche lui è con un mio, la casa sua. No, al monte è lui, al monte. Ehi, non ti ricordi chi è. Quante volte sei andato alla stazione a pigliare delle sigarette? Si è portato via anche lui, quindi. Hai tu salutato Gianni Giuseppe? Adesso si è ricordato, BC. Si è ricordato, vedi? Beh, anche lui scendeva alla stazione a pigliare le sigarette agli anni che furono, quando faceva il tranviere. Ho capito, vabbè. Adesso suona molto senza vederlo anche a lui, e dunque forse se lo vedo non lo riconosco, hai capito? Sì, già lo riconosce sempre uguale, l'unica cosa che è cresciuta per la parola di pancetta, capito, vecchiaia. Poi il resto è tutto uguale, Gianni. Pensavo che fosse Gianni di Capri 2, mi hai capito? E lui andava in baracchino, ce l'aveva sulla macchina una volta, poi c'aveva la tubo 2001, poi l'ha attaccata. Era troppo lunga, un casino faceva, troppo pesante. Tutti i giorni va, tutte le mattine lì a fratello, poi se ne va mezzogiorno, quindi se ci vai lo trovi domani, non domani mattina, vabbè, deve fare cosa, ma lunedì mattina già lo trovi. Anzi no, lunedì mattina è chiuso, martedì mattina lo trovi Giuseppe. E c'era gente qua, c'era Gian Maria stasera, Figaro, poi Graziano, eccetera eccetera, Macchisio, già c'è gente già, ancora ci trova, non ti preoccupare, già è vivo, anche se è invecchiato un po', ma già è vivo. Ah, già escono, ogni tanto già escono, quindi già, se li vuoi trovare basta che esco, parli qua, di giorno, dalle 2:30 in poi c'è sempre gente, c'è Graziano, c'è Zio Maria che entra, e poi la notte verso le 7 entra Bacchisio, poi c'era di altro, Natalino Alfa 1, già ce n'è gente che entra. Claudio Spalviero. Spalviero è già vivo, grazie a Dio. È giù in casa con mia sorella, vive. Già sta bene, già sta bene. Non è che sia il cervello sano, ma già è vivo. Già è vivo il baracchino stasera, verso le 6:30, 7. E c'è il baracchino, c'è il PMR, anche lui parla qua. Claudio entra ogni tanto in PMR, di solito lui entra in 27, su canale 10 in 27. E allora, avanti Giuseppe. E io non lo sento a Gianni. Ma dov'è il piazzale segni? Ehi, il piazzale segni con l'antenna in gomma. Sta usando il portatile uguale al nostro. Ho capito. Chiedili se c'è freddo lì in piazzale segni. Oh Gianni, mi ha chiesto Giuseppe se c'è freddo lì in piazzale segni. A venne freddo. Lo so che il sabato è molto odio. Vabbè, se c'è il calamento acceso già lo credo che non senti freddo fuori. Ma se esci dalla macchina e vedrai che ti cancareggi, ha segnato 4 gradi stanotte. Vabbè, se vai a pescare, ha voglia. Anche Giuseppe andava a pescare parecchio tempo fa. Solo che poi non ha più avuto voglia. A parte che devi stare lì a aspettare, che il pesce lo accogli. Uiuia. Conviene portarsi il panino, il boccione del vino e ti scaldi quando stai pescando. L'unico sarebbe fare una cosa, Antonè. Vai con la canna a pesca, metti sull'amo, 50 euro e peschi sempre. E Giuseppe è sempre con la canna a pescato. All'Enza, ma sempre con la canna. Siccome aveva comprato una canna da pesca e pescava. Andava con Gianni... non mi ricordo il nome attivo adesso. Usciva con lui qualche volta. Avanti Giuseppe. Ehi, Gianni Merlo. Ehi, Gianni Merlo, che adesso mi viene a mettere il nome attivo. Capito, digli a Gianni, bisogna portare una canna da pesca, ti attacchi 50 euro e la metti lì al mercato, sai come peschi bene. Anche quello già è vero, ho sentito già, ha detto il Giuseppe di prendere la canna da pesca, ci metti 50 euro e poi la metti lì vicino al mercato, per pesce. E già un grillo si attacca subito. Fai come faceva quando metteva la corna alla moglie, diceva amore mio sono andato a pescare, e quando lì entri dovevi attirare presto, non ti preoccupare. Poi pigliava, andava al mercato del pesce, il mio Roberto gli portava il pesce alla pescheria. Appunto per me lo faceva con tutto e contento, lo faceva. Così bisogna fare Giuseppe, no? Giuseppe. Ehi, Roberto, stavo dicendo a Gianetto che bisogna fare come facevano gli antichi. Che il marito per andare davanti diceva che andava a pescare la notte, poi la mattina verso le 6:30 o 7 andava lì al mercato in via Lomberto, pigliava un po' di sardine, un chilo, diceva tutta questa roba poi ho pescato da pure me. E così veniva a fare, però la notte lui certo era nel letto della compagna. Appunto stava pescando altre cose. Cozze stava pescando. Cozze fresche. Giuseppe è divorziato. Con la mamma vive. E allora, lo sai che non lo so. Giuseppe dove abitava a Ossi una volta, tu, o via Cadena Fossati. A Ossi. A Ossi dice che abitava. Mi ha chiesto come mai se abiti al monte adesso. No, guarda che. Ma dite che io a Ossi. Ho i miei parenti, ho tutti quanti i miei zii, mio padre abitava a Ossi, ma no, io non ci ho mai abitato a Ossi. Allora, a Ossi abitava il padre e tutti i parenti suoi, Gianni. Lui abitava a Sassari, abitava. Adesso glielo chiedo. Giuseppe, ti ricordi di Cavallino? Cavallino? Una ragazza c'è che si chiamava Cavallino, non so se la CP quella, boh. Cavallo pazzo. Io cavallo pazzo, boh. Diamo la ricordo, perché? Perché ha detto che eri ricco sfondato quel periodo, che quando uscivo con quella. Maneggiavi i soldi come se fosse acqua. Già lo so. Valentina, stava dicendo lì. Lui stava dicendo a Valentina. Sopravvenata a cavallo 4. Valentina si chiama Gianni. Sopravvenata a cavallo 4. Quel periodo lì c'era il giro già. Alla stazione c'era tutto Sassari, c'era, rimaneva a pettersi la mezzanotte lì. Ce lo ricordo anch'io, era una miniera quel luogo lì, era una miniera. Poi da quando sono andate male le ferrovie, è andato tutto male lì. L'unica cosa che è rimasta in piedi è l'edicola lì, se c'è ancora. Adesso è povero anche lui, e io già me lo ricordo già. Me lo ricordo, anni che furono quelli. Questi anni non tornano più indietro, purtroppo. Fossero stati, guarda, per i lì, saremmo stati tutti ricchi. No, meno messi male, da quando c'è l'euro ci ha rovinato, già. Stiamo dando i soldi agli altri a posto di tenerceli noi. Figurati. Quegli anni i soldi, c'era un sacco di soldi, giravano. Era sempre pieno, era sempre quello. Ma c'era la fila per le sigarette, ma la fila fino a fuori mi... Ogni tanto trovavo anche tu si coglieva i coglioni, si metteva fuori a chiedere, ce l'hai spiccioli, coppa. Antonei. E guarda che anche signora Maria vinceva, mi se ti ricordi bene, quella che c'è qua vicino, la buona anima di signora Maria, la madre di Cicci. Io cavallotto, era una cosa allucinante, ragazzo. Un giorno ha avuto un mediato, si è fatto tutto il bar nuovo, si è fatto. Che abbassa che ha avuto... da quella specie di... non era un bar, era un chiosco quello prima, era. C'erano loro di pipì da morire, c'era. Beh, da lì, quando hanno aperto via Corraduzza, lì, ha avuto l'appartamento gratis, i garage, tutto gratis, ha fatto quel locale che era una cosa allucinante. Poi aveva vinto un miliardo. Era tutto rinnovato. Antonè, Tonello. Dimmi Giuseppe. Chiedili a Gianni se si ricorda in quel periodo se veniva all'Aiport, hai capito? Gianni, ti ricordi quando salivi all'Aiport? Capito Giuseppe, detto che saliva di Mario Rasso, che faceva i buttafuori. E tuo fratello c'aveva la macchina, una Alfa Romeo c'aveva. La Giulia o la Giulietta oppure l'altra. Il V6 c'aveva. Il V6. E mi ha detto Gianni, c'è che raccoglievate i soldi con il busto della modesta gratis in Kiwi, in quel locale, quando finivate il coso, fino all'orario. Dice, ma quel banchiere dice li tirava così. Altri tempi, Antone. Allora i soldi c'erano, giravano. Ma lui si ricorda tutto, anche della villa che c'è giù, addirittura, Badelonga. C'è che la conoscete quella villa, cioè è grande. Chi si ricorda quando venivano a portarmi gli articolati della birra Messina? Gli articolati della birra, addirittura gli articolati arrivavano lì a scaricare la birra. Da noi sì. A sé quanta birra la vedevi lì? 50 casse al giorno? Sì, 50 ma... allora ne vendevo birra lì, certo, ma la birra vicina era la più venduta tutta Sassari. Gianni, hai sentito là, hai detto che se ti ricordi quando arrivavano gli articolati era la birra? Figurati. Quindi anche l'edicola c'avevi Giuseppe, lì a Sant'Orsola. Il bar Tabacchi a Sant'Orsola. Prima via Fratellazzini. E l'altro poi via al dinaltare a Bartabacchi. Figurati. Caspita, voi ha voglia di girarvi dei soldi. Con la scorta uscivi fuori allora, quando andavate a casa. Quello che è successo a noi, certo, non lo auguro manco a nessuno quello che è successo a noi, Antonè. Ma c'è anche se vatte, una migliore c'è che era quel posto, ormai però i tempi che sono dove fare, poco la va fea, va. I bar di Sassari sono tutti poveritti, anzi stanno venendo pochi bar, perché nessuno ce la fa più con le tasse e tutto, una volta le tasse erano molto, molto di meno. Il che ha dominato è l'euro a noi. La lira no, ma l'euro sì. Beh, ci ha rovinato l'euro, da quando è entrato l'euro in vigore, ci ha rovinato tutto. Se lo chiedo. Giuseppe, se esiste ancora quel ragazzo con le orecchie grandi. Alberto. Deve essere Alberto. Alberto Gianni, così è. Ehi, ha detto Alberto, già è lui. No, è morto. Morto è quello, Giuseppe. Sì, è morto. Cata le orecchie grandi che aveva. Le orecchie di parafango della 500. Tipo quelle di Palavà. Sì, più grandi ancora erano. In Olabona. Figurati che... Allora amico di Gesù in cosa, così dovrebbe essere. Vabbè, quello c'aveva le orecchie piccole, però... Osaretta era. Un giorno c'era la persona là, no? Quello Mario Chigini. E l'abbiamo incontrato Alberto, no? E gli ho detto... Oh, Mario, guarda quel ragazzo lì. Cazzo, quasi quasi, cazzo, quelle orecchie me le metto, cazzo, a parafango della 500 via. Così ti ha detto Mario. Le orecchie nel parafango della 500 avevo da mettere. Usaretta, avanti già. Ehi, ciao Giaretta, quando vuoi, non c'è problema. Siamo sempre qui, te l'ho detto l'altra volta. Ma se che accendi la casa tua... me lo parli da casa tua, se no ti puoi portare da presso e parli, già sai la frequenza qual è, segnatela, così non te la dimentichi questa qui. E via, ciao ciao, avanti Giuseppe, riprenditi. Giuseppe, ma Gianni sta chiudendo, Giuseppe. Sì, vabbè, è stato sto chiudendo anch'io, dai. Saluta Gianni, ricambia i saluti a parte mia, dilli... Qualche giorno che ci incontriamo, a me ci beviamo qualcosa assieme, dai, non c'è problema. E gli ho detto che dai martedì in poi sei tutte le mattine a tuo fratello, quindi già ci passa a letto. E mi fa, anche, diciamo, mi fa piacere rivederlo, dai, dopo da tanto. Ok, già ha detto Giuseppe di farti vedere al circolo del fratello, così che è piacere di rivederti. Ha detto che già ci passa a trovarti, Giuseppe, non ti preoccupare. Questo è, uno di questi giorni già passa. Vabbè, non c'è problema, dai. Vabbè, dai, signori, io chiudo e ci sentiamo tutte le prossime, dai. Tanto Antonetto, siamo noi due soli e poi mi sta venendo già la biocca. E io vabbè, là, ci sentiamo domani, tanto io già sono in PMR, non c'è problema. O domani mattina o domani sera. Andrà bene. Ma di una cosa, tu, Alghero lo prendi tu? Tu Alghero lo prendi? Sì che lo sento Alghero io. Se arrivo Olmedo, cioè sento Olmedo, sento anche Alghero. Cioè vicino. E vabbè, io mi porto il PMR appresso, poi domani secondo l'occhio ti faccio una chiamata, dai. E vabbè, non c'è problema, portatelo appresso, già ti ascolto, non ti preoccupare. Vabbè dai, ciao, buonanotte, buon tutto, dai, ci sentiamo domani, dai, ciao. E ciao domani Giuseppe, buonanotte, buon tutto.